Tuo Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ma che vitalità è sempre di politica, e poi Andesce, poi cioè, allora, le 10 minuti non mi fai sentire la borsa, ma deve essere una roba proprio veramente un programma un po' di merda questo qui deve essere. Pronti? Eccoci! Non fare battute oggi, eh? Perché? Non si possono fare battute? Come no? No, oggi si devono fare battute. Oggi si deve ridere. Oggi il miglior modo, certo, oggi il miglior modo per ricordare quello che è successo a Parigi è ridere! Ridere, capito, fondamentalisti slavici? Ridere! Allora, Maometto, 100, aspetta, Maometto, 100 colpi di frusta, Maometto, 2 punti, 100 colpi di frusta se non siete morti da ridere. Era una delle vignette di Charlie Hebdo dove c'era Maometto. Charlie secondo... Hebdo, vedi come lo pronunci? Aspetta, tu lo pronunci bene, perché molti invece oggi manco sapevano come cazzo. No, Charlie Hebdo. Allora, Charlie Hebdo. Vabbè, ho solo questa peculiarità che parlucchio un po' di francese. Però voglio dire, 100 colpi di frusta se non siete morti da ridere. C'era la faccia di Maometto con questo naso lungo. Sì. Perché questi qua alla fine pigliavano per il culo, erano degli splendidi anarchici, se ne fottevano di tutto e di tutti. E pigliavano per il culo Maometto. Perché bisogna dirlo in questa. Non solo Maometto, ovviamente anche il Papa, anche i politici francesi, eccetera, eccetera. Poi avevano le loro idee, ma chi se ne frega, come ne abbiamo noi. Pigliavano per il culo tutti. E uno deve avere il sacrosanto diritto di pigliare per il culo pure Maometto. Cioè, io voglio avere il diritto, senza essere ammazzato, di pigliare in giro Maometto. Chiaro? Cioè, non è che c'è qualcuno intoccabile. Tant'è che a un certo punto hanno fatto una vignetta che si chiamava appunto Gli Intoccabili, con sì. Maometto, con un islamico e anche con un ebreo. Anche sì, con un ebreo. Sì. Bisogna dire la verità, che alcuni ebrei si offendono, non Parenzo, però sugli ebrei se ne dicono veramente di tutti i colori. Se ne dicono di tutti i colori. Non mi pare che sull'Islam, nessuno abbia mai... No, nessuno ha mai ucciso per al questo. Al massimo io ho detto c'è la legge per se uno si sente offeso o c'è una bestemmia. Ecco, questo... È iniziata la fiera dei commenti politici. Ecco, infatti. La fiera dei commenti politici. Ecco. Anzi, prima farei sentire Calderoli. Il famoso Calderoli con la maglietta con una vignetta islamica. Diciamo, una vignetta sull'Islam. Era il 2006. Il marzo, primo marzo, 20 febbraio del 2006. Calderoli, credo che fosse ministro, andò al TG1 con una maglietta in cui c'era riprodotta una vignetta ironica sull'Islam all'epoca di un giornale danese. Di un giornale danese, ve lo ricordate? Giornale danese, le cui vignette contro l'Islam erano molto criticate e furono riprese dallo stesso settimanale francese, esatto, che adesso oggi ha subito quello che ha subito. Calderoli, quasi da rivalutare oggi, quasi da rivalutare. Io credo in una religione dell'amore e non quella dell'odio che qualcun altro pratica. Credo che tutti debbano essere rispettati, non esiste al mondo che si venga a casa nostra a volerci imporre le tradizioni di altri, e la mia, con la mia t-shirt è una battaglia di libertà, poi lei non ci crederà, ma lo indossa anche adesso. Grazie, grazie. No, ma guardi, è proprio qui se vuole. Quindi non ha rinunciato a disobbedire. No, io la porto perché è una battaglia di libertà e di democrazia questa. Riconoscono i nostri diritti e poi dopo toglierò la maglietta. Vabbè, lì era tutta su riconoscano i nostri diritti, cioè i diritti dei cristiani in Islam di praticare la religione, di aprire le chiese, eccetera, eccetera. La nota intolleranza, perché è evidente islamica, per queste cose qui. La voce era di Mimoun, se non sbaglio, no? Clemente Mimoun, all'epoca direttore del TG1, esatto. E poi, per motivi politici di convenienza, Calderoli si pentì di quel gesto lì. E te credo. Si pentì perché forse anche minacciato, ma ebbe la scorta per un sacco di tempo, eccetera, eccetera. Lo sai che ci sono in Francia, su Twitter, soprattutto in Francia, ma non solo, degli appassionati e tifosi dell'ISI, come diavolo si chiama? Dell'ISIS. Sì. I quali dicono che questi francesi, beh certo, per le loro vignette, per il fatto che rompono i coglioni, per il fatto di essere, se la prendono con tutti, se la sono meritata. Alcuni dicono, beh, se la sono, alla fine se la sono voluta, no? Se la sono cercata. Beh, gli idioti esistono dappertutto, purtroppo. Questo, oh. La fiera delle cazzate politiche. Da dove iniziamo? Iniziamo. Beh, c'è di tutto. C'è di tutto, c'è di tutto. Da Grillo, se vuoi, no? O teniamolo in fondo? No, che ha detto Grillo? No, teniamolo in fondo. Che ha detto Grillo? Beh, non sei andata sul suo sito, il sito di Beppe Grillo, dove dice che ci sono. Chi c'è dietro? Chi c'è dietro l'assassino? Gli assassini di Parigi, chi c'è dietro? E che cazzo ne so, che ha detto? È quello che dice lui, che c'è una manina strana. Vabbè. Dietro di qualcuno. Salvini dice che Papa Francesco sbaglia ad aprire all'immigrazione, agli estremisti, non so a chi. Papa Francesco sbaglia, da Radio Padania. Non penso che la linea di Papa Francesco ci porti lontano, perché un po' di acqua quando c'è il fuocherello serve, quando c'è un grosso incendio il tuo catino d'acqua lo usi per farti degli sciacqui. Di prevenire è meglio che curare, e temo che le ricette di Papa Francesco del volemo se bene non sempre possano essere efficaci. Salvini contro il Papa è troppo buono, non basta il volemo se bene. Oggi ci sono dichiarazioni di guerra, alcuni dicono siamo in guerra, poi tecnicamente cosa significa? Boh, non si capisce. Per Maroni bisogna sospendere subito Schengen. Cosa c'è Schengen? La libera circolazione. E quindi? E aggiungo, da ex ministro dell'interno, questa richiesta al governo, fino a che non sono accertati, al governo italiano, fino a che non sono accertati i fatti, e per evitare che i terroristi francesi, questi terroristi dalla Francia scappino in Italia, bisognerebbe oggi stesso sospendere Schengen, cioè l'accordo di libera circolazione tra i paesi. Allora, il signor Centinaio, che mi risulta essere il capogruppo al Senato della Lega, dice che gli hanno impedito di andare in Islam per colpa di una croce tatuata. Adesso, io non credo che sia così, magari per altri motivi. Cioè, come fanno a sapere che c'è una croce tatuata? Adesso non esageriamo, dai, Centinaio. Io ho tatuato una croce sulla spalla, e mi hanno impedito di andare in un paese musulmano perché offendeva le persone del paese musulmano. Lo stesso Centinaio della Lega dice che non ha mai visto minacce a Crozza per l'ironia sul Papa. A parte che Crozza fa un'ironia sul Papa che non è che lo prende per il culo, ma comunque, cioè, è l'imitazione del Papa, certamente. Ma questo lo dobbiamo dire. Portando un frigorifero in spalla. Però questo lo dobbiamo dire. Se uno piglia per il culo il Papa non succede niente. Anzi, spesso ti fanno un monumento in Italia. Sei considerato monumento, politicamente. No, ma ridi, sì. Ride. Sei considerato nel mainstream, ma no, pigli per il culo. Anche noi facciamo l'imitazione del Papa. Cioè, il Papa viene sonoramente preso per il culo. Anche perché preso in giro, diciamo, visto Maometto, che è santo padre, o gli imam, eccetera, se vengono presi per il culo, beh, c'è il rischio che qualcuno si incazzi e dice che sei un infedele, e magari non dico che ti tagliano la gola, perché non è che tagliano la gola ogni secondo in Occidente a qualcuno, no, però insomma ti possono creare dei guai, c'è molta gente con la scorta, e questo lo dobbiamo dire. Quelli che dicono oggi questi hanno ammazzato la Chieng pure, o qualcun altro, la Boldrini, non c'entra niente la religione. Ma come non c'entra la religione? Certo che c'entra la religione, ma è evidente che c'entra la religione. Adesso faccio come Cacciari, è evidente, è chiaro che c'entra la religione, ma è normale. Ma questi qua hanno ucciso una parte dell'Islam. Ma sì, vabbè, ma c'entra l'Islam. Sì, certo che c'entra l'Islam. Nessuno uccide in nome di un'altra religione. Ci sono buddisti che ti ammazzano? Quanti ci sono gli cristiani che ti ammazzano? No, 5 milioni. Sì, ma no, gli islamici in Francia. Allora, è una religione più intollerante di altre. È una religione. Tutte le religioni sono. A me fanno schifo delle religioni. Io sono ateo. A me le religioni fanno orrore. Perché c'è un fondo di intolleranza. A me fanno schifo. C'è un fondo di intolleranza. l'intolleranza nelle religioni. Ma chi a me fanno schifo personalmente, mica mi fanno schifo. Perché gli ebrei sono intolleranti, i cattolici sono intolleranti. La fede è di per sé irrazionale, qualcosa di irrazionale. Ma questo cosa c'entra? C'è un fondo di intolleranza. Poi non ho detto che le persone sono intolleranti. A me non piace, dopodiché. I buddisti sono intolleranti, ma tutt'altro. Vabbè, perché devi buttare c'è tutto un fondo di intolleranza, c'è un fondo di intolleranza. Perché i buddisti sono intolleranti? Ma no, ma lo stesso anzi, fatto di credere. Però ebrei, non c'è no, nessuna. Non c'è, beh, ci sono molti ebrei intolleranti. Molti ma ebrei. No, ma c'è uno gruppo di, ci sono gruppi di ebrei molto intolleranti, sì, ma è normale. Ma imbracciano. Sto dicendo, io sono ateo e mi vanto e me ne vanto di essere ateo. Il punto io sono ateo e oggi in particolare sono contento di essere ateo. L'erede di Horkheimer e Adorno. No, ma non è quello il punto. Della dialettica, ti sto dicendo che però non c'è nessun altro, nessuno anche che uccide. Alcuni laici sono intolleranti. Senti, non buttiamola. Mi fai finire. Ma no, perché è un concetto sbagliato, sì. Secondo me. Anche alcuni laici sono comunisti. Certo, laici comunisti. Assolutamente, se assolutamente, vuoi. Assolutamente. Però ti sto dicendo ti sto dicendo semplicemente che non c'è. Nessuno che uccide in nome del cristianesimo, uccideva, che oggi uccide in nome del cristianesimo, del buddismo e di altre cose. C'è gente invece che uccide in nome dell'Islam dicendo Allah Akbar, punto. Questo mi pare chiaro, no? È evidente. Ferrara sostiene che chi spera nell'Islam moderato è sostanzialmente un illuso, un cretino. Sentite. Serra afferma che questa cosa finirà quando un Islam consapevole di sé comincerà a battersi contro questi assassini che compongono poi un esercito e che fanno il loro mestiere, che è il mestiere islamico di uccidere gli infedeli per sottometterli. Auguri, molti auguri a Michele Serra, molti auguri all'Islam moderato. L'Islam, dice Ferrara, è fatto per sottomettere gli infedeli. Dunque non esiste in sostanza un Islam più moderato. Certo, poi ci sono pure quelli che ci sono sicuramente quelli che non ammazzano. Però dice, nella sostanza, questo non credo, come direbbe Razzi. No, io invece credo. Ah, perché Khalid Chaouki, il deputato della Lega, della PD, il deputato del PD, Khalid, va bene, ne parliamo dopo, se mai. Khalid Chaouki, il deputato del PD, secondo te è un tagliatore di gole? Allora, aspetta dai, un attimo. Ma che c'entra? Dai. Ma chi lo dice? No, se non fai la distinzione tra Islam radicale e Islam, punto, è difficile. Allora, mi segnalano che la signora Padovani, che è stata molto vicina alla sinistra italiana, corrispondente di un giornale francese per tanto tempo, dice che Charlie Hebdo è un settimanale islamofobo e antisemita. Io non ci voglio credere a questa cosa qua, però sentiamo. Settimanale veramente in questi ultimi tempi molto islamofobo, prima anche antisemita. Sale nel frattempo, bisogna all'erta. Saperlo. Cioè, questa signora sostiene che questi anarchici pazzi. Questo può essere, ma non giustifica il gesto. È islamofobo. A parte no, che anche. Ho detto questo non lo so perché non lo compravo prima, lo vedevo da internet. Questo ho detto non lo so. Potrebbe esserlo, ma non legittima antisemita, in alcun modo. Antisemiti. Ho detto questo potrebbe anche essere che uno faccia delle vignette con il naso adunco, ma ciò non giustifica 12 morti, ma neanche uno, neanche mezzo, neanche un ferito. Ma può essere che sia islamofobo e antisemita, io non lo so, può essere. Ma quale islamofobo? Ma non giustifica. Ho detto allora, però che questo non giustifica nulla, però può essere. Giampiero Mughini, come stai? Sono qui, ma sto peggio a sentire queste cose. Ma ti rendi conto? Ma cose sto peggio. La signora Padova, a parte la politica, la fiera delle cazzate della politica. Io non questa signora che tu hai nominato e che vorrei non nominassi più, non so bene chi sia. Penso che di cretini il mondo sia pieno, una più, una meno. No? Beh, questa signora, come sai, è stata a lungo corrispondente di un settimanale francese in Italia. Sì, vabbè, ma tra i giornalisti ci sono numerosissimi cretini, tu lo sai, c'è un'alta percentuale. Assolutamente. Dire che questo giornale satirico francese. Ma non lo dica neppure per scherzo, a parte il fatto che nel giudicare un giornale satirico, naturalmente gli aggettivi correnti sono imbecilli, perché un giornale satirico per la sua natura è eccessivo, radicale, estremista, fa il suo mestiere. Certamente quelli del Charlie, i colleghi, gli amici. Dio mio, ci sono 11 morti, Dio santo, 11 morti in un giornale. Dio santo! Vabbè. Sei sconvolto. Sì, hai ragione. Vabbè, dai. Quanto ti ha sconvolto questa cosa? Molto, molto, molto, molto, molto, Giuseppe, molto, sai, la cultura francese è una cultura con la quale ho un rapporto particolarmente intenso. E poi quel modo di fare i giornali, eccetera, sai, Wolinski era un poeta della nostra giovinezza, lì in quegli anni, sì. Insomma, quindi sì, è una cosa per me molto straziante, ma credo per qualsiasi essere umano di tipo civile, di tipo umano per l'appunto. Poi e oggi e quando un politico oggi invoca la guerra contro l'Islam, per esempio, No, Dio santo, un altro cretino, insomma. È una razza veramente inestinguibile, anzi che no, cioè Salvini dice che Papa Francesco l'Islam sono 1,2 miliardi esatto. milioni, d'accordo? Allora già l'idea di fare una guerra a 1,2 miliardi nell'Islam ci sono le persone le più diverse, le etnie le più diverse, le radici culturali le più diverse, le specifiche culturali le più diverse. Nell'Islam c'è, per esempio, è un islamico assolutamente fervente, quel capo dell'Egitto, il quale ha detto di recente all'università, lì al Cairo è andata, ma cosa facciamo? Dice, noi musulmani dobbiamo dichiarare volere la morte di 7 miliardi di esseri umani, questo è un amico nostro, eccetera, come ce ne sono tanti altri. Io qui di rimpetto nel quartiere romano dove abito c'è della gente che ha dei negozi, eccetera, che sono sicuramente dei musulmani, ragazzi, ma cosa vuol dire? C'è un comparto di assassini, di delinquenti, di fanatici, di vigliacchi. Contro quelli dobbiamo indirizzarci. Ecco, contro quelli dobbiamo indirizzarci. Però non c'è nessuno, come dicevo prima, che uccide in nome della religione. Questi ammazzano in nome della religione. Perdonami. È un alibi, non ho capito. Hanno bruciato vive le donne sino a qualche secolo fa. Qualche secolo fa. A me fanno schifo tutte le religioni, cioè fanno schifo. Io penso che ci sia un fondo di intolleranza in tutte le religioni. Ma non però è vero. Aspetta, Giuseppe, però non calcare la mano su questo, perché se calchi la mano su questo rendi la situazione più torrida e la situazione non ha bisogno. Noi dobbiamo partire invece da un altro principio, che la religione è una questione privata. Una questione privata, quindi tu nel tuo privato, assolutamente. Nel suo privato, io nel ce la raccontiamo come vogliamo. Però nell'Islam non è così, questi pensano che la religione sia più importante dello Stato, e questo è il punto. Oddio mio, lo pensano in pensano. Non solo lo pensano. I musulmani certamente hanno un'idea che il Corano è una legge generale, ma questo lo pensavano, bada bene, anche i cattolici lo pensavano fino a tutta la ma sai, se i secoli nella storia dell'umanità, che è fatta di miliardi di anni, sono piccola cosa. Un attimo solo, fermi tutti. Allora, non voleva commentare quello che è successo a Parigi, però c'è un grillino, mi segnalano, un tale Tofalo, deputato, ovviamente. Non è giornata da grillini. Sì, no, però aspetta questo, dopo proseguiamo con Mughini, il quale ha detto una cosa. Sentiamo Tofalo, 5 Stelle. Comunque, come vi dicevo, guardate quanta roba abbiamo, Kalashnikov, Mitra, mine da posizionare su ogni scranno di questi politicanti della casta. E poi, male che vada, c'è qua dietro una bella zizzona di battipaglia come bomba per far saltare tutti in aria. Ovviamente sto scherzando, sennò domani già usciranno i titoloni, immagino, di Repubblica o di Huffington Post, tutti questi signori che ci trattano sempre bene. Allora, non voleva commentare, però ha parlato di Kalashnikov, Mitra, eccetera, eccetera. Voglio chiedere a Mughini, inutile che commentiamo questa roba, no Mughini? L'onore, voi fate l'onore a delle nullità che solo la miseria della situazione presente mette in vetrina. Sì. Vabbè, ma una nullità del genere, già ai tempi della mia giovinezza, dove ancora c'era un minimo di selezione, sarebbe stata adibita al massimo a chiudere la luce alla fine delle assemblee, capisci? Avrebbe spento la luce. Senti una cosa, Giampiero, se mettiamo il caso, no, uno scenario, vengono prese delle persone che si ritengono molto vicine a, a questi terroristi, questi due o tre delinquenti, a questi due o tre delinquenti, assassini, quello che vogliamo. Uno Stato cosa fa a quel punto per avere delle informazioni? Li sbatacchia come si deve, li sbatacchia come si deve, perché una guerra è una guerra, e quando un gruppo avversario è uscito dalle leggi dell'umanità, non dico della lealtà militare, ma dell'umanità, quando un gruppo avversario tagliano la gola ai prigionieri, a qualsiasi prigioniero, non distinguono nulla da nulla, ammazzano, ci sono le foto, ogni assassino dietro uno dei soldati siriani da assassinare, Daniel Pearl l'hanno preso la notte, gli hanno fatto recitare dinanzi a una camera da presa, io sono un ebreo, lo hanno sgozzato. Dinanzi a questi cosa facciamo? Ci mettiamo i guanti bianchi e ricordiamo Beccaria e Voltaire. Se prendiamo un complice, uno che ci può dire dove afferrare quei due delinquenti, lo sbatacchiamo per bene, perché io tutte queste fesserie che si raccontano anche di recente, ma in una guerra come quella che loro hanno scatenato a noi, in una guerra che hanno fatto partire da quelle due torri che cadono, 3.000 morti, 200 che si buttano dai balconi per non bruciare vivi, noi li trattiamo come se fossero leali combattenti di un esercito con la per cui tu dici in alcuni casi, in questi casi per beccare la tortura, anche torturarli, sapendo bene quello che fai, lo sbatacchi per bene, per mettere le mani su questi, ecco, però lo sbatacchiamento significa sostanzialmente insomma torturarli un po', diciamo la verità, il termine diciamo italiano volutamente più vicino allo sbatacchiare è quello, ma d'altra parte stiamo parlando ma insomma io non so, ma cosa aspetta lo Occidente a capire che siamo in guerra, cioè alcuni in Occidente lo sanno benissimo, ma Ulbeck, questo libro lo andrò a comprare dopodomani perché prima non c'è, ma siamo in una guerra, ma in una guerra contro delle bande di assassini, non contro un esercito schierato, un esercito schierato ci mancherebbe altro. Per cui secondo te in questi casi guerra qua per prendere gli assassini del direttore di Charlie Hebdo, di questi 11, 12, 13, eccetera, anche la tortura è le... insomma ragazzi, tu la chiami tortura, ma è io la chiamo tortura, così io chiamo sbatacchiarli per avere delle informazioni preziose sugli assassini e sui futuri assassini, perché non è che hanno finito la loro carriera con l'attentato di stamattina, questi ne hanno un comandante generale, il comandante generale dell'ISIS, il Gran Califfo, che dice attaccate gli occidentali ovunque sia possibile, anche la Francia, anche la, in particolare aveva detto attaccate ovunque sia possibile, questa è la loro parola d'ordine, e noi dobbiamo parare questo tipo di nemico, dobbiamo parare non purtroppo soltanto con le leggi, ci mancherebbe altro. Però scusami, Ferrara dice che il mestiere dell'islamico, del militante islamico, certo generalizza, però dice il mestiere del militante islamico è proprio quello di uccidere gli infedeli, cioè non è che 1.200.000.000 non saranno 1 miliardo, però ma perché Giuliano la mezza misura non sa che cos'è? Se tu gli presenti la mezza misura a Giuliano, Però. Gli dici Giuliano qui c'è la mezza misura, lui non la conosce. Però è anche il suo forte. Ragione, Mughini. È il suo, come dire, la sua cifra. Anch'io non conosco. Cioè la religione islamica, però dimentica, lo vogliamo anni dire di che letteratura sì, ma araba lo vogliamo, ma che letteratura islamica. Dire che è intrinsecamente violenta la religione islamica, no, la è religione più complicato di così. Soprattutto Giuseppe, a dirlo non fai un passo in avanti. Io in primo luogo penso che sia più complicato, tant'è vero che nella storia l'Islam ha dato dimostrazioni di grandissima, diciamo, tolleranza, eccetera. Ma tu hai fatto prima un paragone mille e una notte, scusami, le mille e una notte. Un parto di assassini, sì. È quello che dobbiamo individuare. Però esatto. Scusa, Salvini addirittura dice che il Papa critica Papa Francesco, forse Salvini. In un delirio di onnipotenza. Oggi a Radio Padania critica Papa Francesco dicendo che è troppo aperto nei confronti dei modelli islamici, degli immigrati. Chi ha detto queste fesserie? Salvini. Vabbè, ma tu mi stai citando una serie di personaggi da suburra in questa tua sequenza. Tu sai che io non amo i personaggi da suburra. Vabbè, però Salvini è uno dei leader che, come dire, più in ascesa in Italia. Oggi... E per questo Grillo lo era ancora di più. Abbiamo avuto un pagliaccio, adesso abbiamo un rivale nello stesso nella stessa direzione. Possiamo citare anche cosa ha detto, se vuoi, Topolino a questo punto. Ma perché c'entra adesso Topolino? Stai paragonando Salvini con Topolino e Beppe Grillo, ma che vuol dire? Leggi la dichiarazione di Asterix, allora, l'analisi di Obelix. Ma di che parliamo? Ma Grillo, ma allora sbaglia, scusa, secondo il ragionamento che ha fatto Mughini prima, però allora sbaglia pure Obama quando ha chiesto scusa per Abu Ghraib, per alcuni eccetera. No, perdonami, Abu Ghraib era una vergogna dell'Occidente. Esatto. E invece Guantanamo? Guantanamo è nato dalla necessità di tenere ben segregati un gruppo di individui intimamente collegati e criminalmente legati al terrorismo. Però non si è mai sentito dire che a un certo punto tu sei un imputato, vieni giudicato per quello che hai fatto, vieni riconosciuto colpevole o innocente per quello che hai fatto, prendi una pena e questa pena la espii in un luogo preciso, mentre invece quello ha l'aria di essere... Vabbè, ma scusa, ma tu vuoi... Non il più infernale, però di essere un lager. Vabbè, ho capito, Giampiero, però tu sei tu quello che hai detto prima, che in questa situazione di guerra bisognerebbe sbatacchiare quelli che pigliamo per avere informazioni. Sbatacchiare quelli che pigliamo, che sappiamo essere corresponsabili di assassini presenti, imminenti o futuri. Non è che ognuno di quelli che aveva quel camice arancione lì a Guantanamo, noi sappiamo con certezza. Certo. Alcuni Senti, un'ultima cosa, Giampiero, poi chiudiamo. Giarrusso ieri, 5 Stelle, oggi Renzi ha risposto in questi istanti, ha detto che il Presidente del Consiglio andrebbe impiccato per quello che fa, per i suoi accordi con Berlusconi. Sì, ma è continuo. Ma tu capisci? Cioè, di 5 Stelle che abbiano detto cose interessanti, io non ne ricordo alcuno. Nemmeno uno. Di 5 Stelle che abbiano detto delle fesserie, ce n'è una caterva, un mucchio, un oceano, se ogni volta gli facciamo pubblicità. Dal signor Carruba, dal signor Barisoni, financo, anzi, dove chiamano in diretta? Dal signor Milan, come mai non chiama gente che cita mai in town? Non chiama, io mi chiedo come mai solo. Allora ragazzi, a proposito non c'è solamente l'attentato a Parigi, ovviamente, che è la cosa più grave, 12 morti, per esempio ci sono i funerali in due città, una cosa assolutamente ridicola, anche se perché frutto di un litigio all'interno della famiglia. Non è una decisione come fu per Totò, eccetera. I funerali di Pino Daniele, tra l'altro, su questa vicenda di Pino Daniele parla una deputata dei 5 Stelle, caro Parenzo. Adesso sembra che noi ce l'abbiamo con quelli dei 5 Stelle, no? No. Cioè, sembra che poi miriamo, tu no, in particolare ma tu io no, ma assolutamente. Assolutamente. Metti pure giù lo zaino, accomodati. Chi è, scusa? Chi è un mio amico che è venuto a trovarmi. Lo zaino? Ci avevo appoggiato il mio zaino su una borsa qua. Avevo appoggiato il mio zainetto. Attento, metti lo zaino. Questo mio amico che è venuto a trovare. Mettiti le cuffie, che sennò non senti Cruciani. Allora, saluta Cruciani se vuoi. Ma chi è? Salutalo se vuoi. Vabbè, salutalo, dai, non fare casino, dai, forza. Allora, ciao. Paola Nunes, deputata dei 5 Stelle. Paola Nunes, quella che disse che noi eravamo parte di un complotto internazionale perché eravamo andati da Letta, eccetera. Dice: Pino Daniele ringraziò Berlusconi, Bertolaso e Bassolino, cioè dal palco, seppe ringraziare, non so in che occasione, forse per la costruzione di un inceneritore, Bertolaso, Berlusconi e Bassolino. Dice la Nunes: per questo pianto per la sua perdita, perché di una perdita si tratta, bontà sua, ma non sono andata a Piazza del Plebiscito, io non dimentico. Cioè, sai quando si dice non dimentico? Certo, io non dimentico. Io non dimentico. Lei non quando dimentica. Quando ci sono i morti si dice ma infatti questo è morto, infatti, però... No, ma per altri... Ecco, del caso delle vignette io non dimentico, questo è un caso. Non c'è dubbio. La signora Nunes, deputata dei 5 Stelle, dice io non dimentico. Cioè, Pino Daniele ringraziò, forse in un'occasione, non mi ricordo, dal palco di un concerto, di non so che cosa, Berlusconi, Bertolaso e Bassolino, e per lei questa qua è una cosa gravissima. Sai che spesso noi, gli artisti, fanno degli omaggi anche... formali, sì, a delle persone, non lo so in che occasione me ne fotto. E lei dice io non dimentico, e per questo non è andata a Piazza del Plebiscito. Ma tu ti rendi conto o no? Ma anche la famiglia di Pino Daniele se ne farà una ragione. Sì, diciamo, beh, quello, credo, quello non credo. C'è dubbio. Alla fine sono morti in questo assalto a Charlie Hebdo il portiere, 8 redattori, tra cui il direttore, 2 agenti e un invitato, cioè uno che non c'entrava niente. Secondo Giampiero Moghini, prima la zanzara, anche la tortura, sbatacchiare un po' la gente per ottenere informazioni, per prendere questi assassini, è tollerabile, è ammessa. Allora, De Bortoli, il direttore del Corriere della Sera, dice che domani pubblicherà tutte le vignette online o sul giornale grande di carta, iniziativa. Immagino sul giornale di carta, tutte le vignette più contestate, ovviamente, credo. Bravo. Del settimanale satirico francese. Sentiamo, sentiamo. Noi da parte nostra siamo tutti in questo momento redattori di Charlie Hebdo, ripubblichiamo tutte le vignette satiriche perché la satira è libertà. Lo sai che qual è l'Islam che mi piace? Sai qual è l'Islam che mi piace? No, lo temo. Allora, l'Islam che mi piace è quello è della signorina, è una signorina, sì, una signorina libanese che si chiama Mia Khalifa. Mia, che io non conoscevo, devo dire, per mia ignoranza del strano. Porno. È strano, sì, beh, non è che sono un esperto del porno. La signorina, la signorina Mia Khalifa, che è una pornostar con delle tette enormi, enormi rifatte, è così, tette enormi, diciamo. No, importante, importantissima, andate a vederla. Mia, 21 anni, vive a Miami, ha recitato in un film per adulti indossando lo hijab, come diavolo si chiama, creando ovviamente un casino, un caso mediatico. È stata minacciata di morte, ha indossato un velo islamico recitando in un film porno, ed è stata minacciata di morte. Allora, io non capisco qual è il problema. Cioè, tu poi è pieno di film porno. No, ma è così. Guarda che è un aspetto importante. È pieno di film porno in cui ci sono le pornostar travestite da suore, con i crocefissi, eccetera, eccetera. Ti ricordi anche la stessa Minetti, pare che si sia travestita, adesso non c'entra un cazzo la pornografia, da suora durante uno dei festini dove ad Arcore da Berlusconi. E non è che qualcuno sia offeso. Sì, c'è qualcuno che si è offeso, qualcuno certamente. Qualcuno si è offeso. Qualcuno si è offeso, non c'è dubbio. Beh, qualcuno si può offendere almeno adesso. Sì, vabbè, certo che qualcuno si può offendere, però non è che ti minacciano di morte. Non no. Ci sono le brigate no, cristiane, certo. Le brigate che prima Mughini ha detto una cosa assurda. Prima Mughini ha detto, secondo me, ha detto beh, anche i cristiani ammazzavano la gente. Sì, eh beh, ma sì, ho capito, passato, ma qua, sì, vero, qualche successo. Secolo fa, d'accordo, qualche secolo, i secoli non sono passati in vano e questi qua continuano ad ammazzare. Cioè, la religione islamica è una religione sostanzialmente in cui il ruolo della donna è un ruolo marginale. No, cioè, non la religione islamica. Ma è così, dai. I fondamentalisti che hanno c'è fatto diventare non partito conta, non conta è cazzo, l'Islam dai, politico su. Quello pericoloso. Senti, nel Corano la, no, donna, la donna non conta nulla, sì, c'è scritto chiaro sono, ed evidente. Ma mica tutte sono perché così. Perché tutte non saranno così, è vero che l'Islam però, come dire, raffiguri il ruolo della donna in maniera assolutamente marginale. Questo è chiaro, dai, non lo possiamo non dire. Tant'è che una che fa i film porno perché si è liberata da questa roba qui, se ne fotte, ha 21 anni, lavora a Miami, fa i film porno, è libanese, si chiama Mia Khalifa, è stupenda, meravigliosa, fisicamente poi non la conosco, beh, questa è minacciata di morte a 21 anni perché fa i film porno, che è la più alta forma di libertà che c'è nel mondo occidentale. Questo non c'è dubbio. Una delle prima più alte forme di libertà. Tu sei affezionato alle tette grosse di questa signorina, no, e siamo non tutti sono felici. Affezionato. Però c'è anche un altro esempio di un signore che scrisse qualche anno fa un libro straordinario che si chiama Versetti satanici, Salam Rushdie, che per anni, no, ma possiamo citare le tette e i versetti satanici, certo. Lo stesso fu minacciato per anni dai fondamentalisti islamici, Salam Rushdie, scusa, oltre alle tette grandi, che va benissimo. Ma il TG3, il TG3 lo vogliamo sentire? Poi su Bitonci, no? Possiamo dopo con calma, sì, come una no, cosa assolutamente. Sentiamo un attimo il TG3, no, con calma però, sì. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3 e ascoltate cosa deve dire. Assaltata a Parigi la sede del giornale satirico Charlie Hebdo. Tre uomini incappucciati uccidono 12 persone, urlano Allah è grande e fuggono. La città è in stato di assedio. Tra le vittime, oltre a due agenti, il direttore Stéphane Charbonnier e i tre più importanti disegnatori. Il settimanale già in passato, colpito per le vignette su Maometto. Il presidente Hollande è terrorismo, un attacco alla libertà. Siamo sotto shock, ma reagiremo. A Parigi, grande manifestazione di solidarietà al giornale colpito. Il mondo condanna l'attentato di Parigi. Obama, un attacco orribile e assicura tutta l'assistenza per trovare i terroristi. Napolitano, gesto vile contro la nostra civiltà. Disoccupazione record 13,4%, il doppio della Germania, boom di giovani senza lavoro. Poletti, nei prossimi mesi gli effetti della riforma. Europa in deflazione. Decreto fiscale, Renzi sul 3%, la manina è mia. La critica di Bersani, chi ha di più può evadere di più. Berlusconi chiede uno sconto di pena per buona condotta. E stamattina a Roma e adesso a Napoli in migliaia al doppio funerale per il grande musicista. E intanto sulla morte di Pino Daniele la procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Servi di Roma fuori! Oh, è tornata questa canzoncina! Ieri pensamenti! A Radio Padania, ascoltatori, sull'attentato di Parigi. Guardavano! E se io li avessi sotto mano, io ho 87 anni, ma le giuro che li ammasserei. Vorrei, tra virgolette, dedicare l'attentato a quel bip di Orecchione a Svendola e suoi fratelli musulmani, citando la sigla del conduttore di colore di RPL. Grazie, grazie. Conduttore di colore, sì, nel certo. Senso di Pellegrino. Sali Padania. Ma io quest'ultima cosa non l'ho capito. Questo ha voluto dedicare l'attentato a quell'orecchione di Vendola. Vabbè, d'accordo. E poi se l'è presa con un conduttore di colore di RTL. Non ho capito bene. Vabbè. Ma non ricorda che il responsabile immigrazione della Lega è di colore, no, pure lui. È di colore pure lui. Libertà. Servi di Roma fuori. Emanuele, provincia di Udine, andiamo con gli ascoltatori oggi, immagino caldissimi. Aspettati di tutto, leghisti, stasera degli ascoltatori. Beh, di tutto. Guarda. Emanuele, dopo provincia di Udine. Ho sentito Radio Padania. Salve, buonasera, salve, salve. Vai, vai, dimmi. Allora mi faccia dire questa cosa qua, mi faccia dire subito a Parenzo che mi dispiace perché so che lui è fortemente religioso, ma le religioni. No, fortemente no. Comunque è religioso, insomma. Sono di religione ebraica, tradizionalista, abbastanza religioso. A me dispiace adesso magari darle questo dispiacere esprimendo questo mio pensiero, ma io penso che le religioni siano la più grande puttanata che l'uomo abbia mai inventato. Ecco, l'intellettuale delle 19:26. No, guardi, l'intellettuale ha letto la Torah. Eccolo qua, il Corano, professore delle 19:26. Allora, eccolo qua. Fallo parlare, ma, però. Horkheimer e Adorno, la dialettica dell'illuminismo. Fallo parlare un secondo. Dai, sia cortese, non faccia sì, non no, prego, andiamo avanti con la banalité. Liberté, égalité, banalité. Forza. Benissimo, benissimo. Liberté, égalité, banalité. I cristianesimo, i cristiani comunque non hanno fatto danni, non hanno ucciso persone da centinaia di anni, giusto? Che c'entra? E che cazzo è l'Ira? L'Ira, l'Irlanda, l'Inghilterra, sì, protestanti, benissimo, e lì si sono ammazzati. In Palestina, in Israele, cosa succede per le religioni? Si ammazzano. Questi stronzoni, bastardi, maledetti che hanno fatto questa merdata allucinante che in nome della religione, certo, in nome dell'Islam, ma non c'è dubbio. Ma allora, ma di che cazzo stiamo parlando? Dio non esiste. Vabbè, anche è i laici, anche gli atei, anche gli atei hanno fatto delle stragi pazzesche. Ma certo, ma Cruciani, ma cazzo, ma io e lei siamo atei, giusto? Io sono ateo, io mi professo ateo, lei si è professato ateo. Lei è un'altra cosa, ma non sì, assolutamente, molto ateo. Io sono ateo e mi sono informato anche sui libri religiosi che parlano delle varie religioni, figlie di Abramo. Ma come si fa in un giorno come questo a offendere le religioni, però? No, ma questo è Emanuele da Udine, è matto. Ma anch'io ho detto che mi fanno schifo le religioni. Non è che ho detto che anche tu in questo caso, per me non hai detto una cosa giusta. Ma e come fanno le religioni per tutto l'arco dell'umanità ad offendere l'umanità? Come cazzo hanno fatto? e gliel'hanno lasciato fare. Come cazzo gliela... Come? Da Urbano II, che Dio glielo chiedeva di andare a fare le crociate, a tutte le merdate che ma sono quelli state sono fatte gli uomini che giustificano degli Dio. Assassini in nome di Dio. Ma quelli sono gli uomini, ma che c'entra le religioni? Ma capito, come si fa a dire una stupidaggine simile? Guarda, ma chi li ha scritti? Emanuele, però io sono abbastanza d'accordo con lei che la religione ha provocato dei disastri pazzeschi. Però bisogna aggiungere anche un'altra cosa. Per esempio, il signor Pol Pot, che non credeva in nulla se non nella religione del partito, perché Stalin, pure quella è una religione uguale. Stalin eccetera, sì. Hanno ammazzato milioni di persone, cioè. Ma certo, ma io non è che con però che sempre le religioni sono sempre certo, quelle erano religioni laiche, l'ideologia, quelle erano ma sempre intolleranze sono, ma certo. C'è un fondo di intolleranza in tutte le religioni. Poi bisogna dire, è vero che non esistono oggi le brigate buddiste, le brigate cristiane, gli estremisti, queste cose qui non esistono, che nel passato il buddismo no. Ah, sul buddismo devo dire una cosa divertente. Una volta ero fidanzato con una buddista, anni fa. Si è fatto mancare niente? No, pure che devo fare? Pure con una buddista? No, andiamo avanti. A certo punto, aspetta, buddista è diventata buddista. Io dopo averti conosciuto per forza. No, aspetta. Sì, poi in parte è vero. Cioè, che è successo? Stavamo insieme. A un certo punto sono un po' di litigi dopo un po' di tempo. Strano. È normale, perché tu non hai mai litigato con una donna, non ho capito. Certo, sto scherzando. Stavamo insieme, le cose poi non andavano così bene. Lei si svegliava ogni mattina e sentivo dei rumorini strani nella stanza accanto, no? Dei rumorini strani in giro, però. No, ma è così. A un certo punto, io dicevo, ma scusa, ma che cosa succede? Non capivo, mi alzavo più tardi, no? Era diventata improvvisamente buddista. Improvvisamente? Sì, improvvisamente. Aveva conosciuto uno, non mi ricordo, è diventata buddista. Io, scusa, ma no, poi un attimo. Alzarti la mattina e rompermi i coglioni con questa musica, questa nenia. Ma sei una delle persone più intolleranti buddista. Che io conosco. Non si può alzare la mattina e sentire a svegliarsi. Ma non si può, perché? Ma cosa dici? E dunque anche il buddismo mi dà fastidio. Che devo fare? Sono condannato ad ascoltarvi. Sono costretto proprio causa forza maggiore a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione. Non posso farne meno. Sono proprio condannato. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Cosa ha detto Renzi su Giarrusso? Su Giarrusso e l'impiccagione? Ce l'abbiamo Giarrusso? Lo facciamo risentire, eh? Giarrusso che vuole impiccare Renzi? Questo non ha lavorato mai un giorno nella sua vita, se ne va in vacanza, 9.000 euro all'ora, di non più soldi, e da là pontifica sui fannulloni della pubblica amministrazione. Cioè, se non fosse una situazione tragica, da gente da impiccare veramente, sarebbe da ridere, impiccare. Hai presente quella cosa che si fa con un albero, una corda? Questo succederà quando la gente si arrabbierà davvero. Che cosa pensi? Ora, detto che io voglio bene a Giarrusso, ma li voglio veramente bene a Giarrusso perché è sincero e dice quello che pensa. Voglio bene a Giarrusso, come voglio bene a Dell'Utri, eccetera. Allora, chi vuole la mia impiccagione, ha detto Renzi, è da TSO. Vedo in questo Parlamento gente che chiede di impiccare il Presidente del Consiglio. Io chiamo il TSO, la butto sul ridere perché non credo ci siano alternative. Ora, ti ripeto, ho avuto problemi anche con i buddisti, poi non mi metterei mai con uno fervente islamico, ebreo, cattolico, non mi ci metterei mai perché non sarebbe compatibile con quello che sono io. Ma la domanda è, chi è che è compatibile con le tue abitudini sessuali e non? È vero. Ecco, questa è la domanda da fare. È vero, però no, ci sono delle persone che alla fine sono compatibili, diciamola tutta. Alla fine qualcuno compatibile c'è, ci deve essere per forza. In tutto il mondo su miliardi di persone forse una la puoi trovare. Però questa sicuro. Buddista, questa mia ex fidanzata che a un certo punto diventò buddista, è una forma di intolleranza anche quella. È una forma di intolleranza. Non ne poteva più di te, che dicevi traffico, basta, non mi sto fare. È diventata buddista e mi rompevi i coglioni ogni mattina. Mi svegliavo ogni mattina con questa nena. Ma per reazione, perché altrimenti ti rendo accoltellato nel letto. Ma uno poi in Italia, perché un italiano? Io vorrei capire una cosa del genere, adesso lo dico. nome può incazzare tutte le comunità buddiste mondiali. Ma perché un cazzo di italiano diventa buddista? Ma vedi che me lo devi spiegare perché? Perché devi io non l'ho mai capito perché. Io non l'ho mai capito perché. Ma guarda che sei sciocco davvero. Io ne conosco tantissimi. Ma non capisco perché uno in Italia di uno buddista, un nepalese. C'è una mia amica diventa che anche buddista, tua amica pazzo, peraltro. Divento pazzo, un italiano. Una mia amica che lavora alla 7, molto importante peraltro, è buddista. Perché devi offendere? Di cui non dico il nome perché ma non so, lo so, ma non capisco perché uno debba diventare buddista in Italia. Però vabbè, lasciamo perdere. Ritorniamo, se no ci accusano di non parlare della Francia, il dramma, le cose, le parole scontate, tutto quello che volete. Io l'ho dato Gesù Cristo, sempre. Beh, vabbè, ho capito. Poi... Questo è uno. Sì, sì, quello è cosa? È... Padre Amort. Mi dico Padre Amort, sì, ma è vivo ancora? Beh, poveretto, perché... No. Enrico da Padova, Enrico, dai, fammi sentire Enrico da Padova, dai. Eccoci le qua. Allora, io sono una persona, premesso, molto mite e quindi poco in linea con la vis polemica e l'energia della sua trasmissione, però oggi ho voluto chiamare perché mi sono allineato un po' al pensiero di quelli che hanno detto, non tanto se la sono cercata, ma hanno creato i presupposti perché questo accadesse. No, no, Enrico, perché? Perché? Perché? Ma perché? Perché noi abbiamo la presunzione che tutti abbiano il nostro modo, la nostra cultura, il nostro modo di ma vedere. Non è per avere cose, modo di... Ma non è questione di presunzione. Uno, anche se pubblica una vignetta, cioè questi li hanno ammazzati nel nome di Maometto per vendicare Maometto, dicendo Allahu Akbar. Okay. Questo deve essere chiaro, perché non c'è oggi qualcuno che ammazza in giro per il mondo dicendo Cristo è grande. C'era perfetto, prima oppure perfetto, qualcuno dicendo Buddha è grande o dicendo altre cose. Difendo la sacralità della vita e per questo condanno questo atto. La mia religione è la religione della comprensione e della inclusione delle diversità. Vabbè, allora non considero che la satira sia un valore esportabile e imponibile a tutti, non è un valore, è come la democrazia. Vabbè, ho capito, ma nella democrazia c'è il porno, c'è la satira, c'è la... Ma perché non la facciamo a casa nostra la satira? La facciamo, ma che vuol dire a casa nostra? Che sappiamo che non l'accettano. Ma guarda, allora non si farebbe, a parte che la facciamo in casa nostra, infatti, beh, lascia perdere il fatto dell'Iraq. Coinvolgendo persone che non fanno parte della nostra cultura, facciamo la satira su Berlusconi, sul Papa, i valori che sono della nostra cultura e che sappiamo che possiamo toccare. Infatti viene fatto, ma non andiamo a portare la democrazia. Ma quello è un altro discorso, si può discutere, ma questi qua facevano la satira a Parigi, in un giornale parigino, non è che sono andati a Baghdad a fare la... Ma io le faccio un esempio. E poi magari ci fosse qualcuno. Sai che mi viene la voglia di fare una cosa, Parenzo, lo sai? No, aspetta un attimo, Enrico, torno subito da lei. Mi viene voglia di fare una cosa. Cioè, adesso ci penso, mi viene voglia di indossare una maglietta. Una maglietta simile a quella di Calderoli e di mettermela domani qui in trasmissione. Sì, sì, con tutte le vignette. Domani con le telecamere e tutto. Mandamene una a Roma che la metto anch'io. Indossare una vignetta con Maometto. Dobbiamo fare le nostre magliette della zanzara. Con Maometto con il nasone, come lo facevano quelli di Charlie Hebdo, pigliandolo per il culo, perché bisogna avere il coraggio di prendere per il culo anche Maometto. Ma come tu facevano sai come questi si qua. Chiamava il poliziotto che è stato massacrato, ucciso per la strage di Parigi oggi? Ahmed. Il poliziotto che oggi è morto, uno dei 12 morti in questo attentato, si chiamava Ahmed e indossava la divisa dei poliziotti francesi. Cioè era francese. Vabbè, Enrico, io non ho capito perché Enrico, Ahmed, da Padova sostiene invece, perché Enrico da Padova, dai. Sostiene che se la sono cercata questi ma qua. Sì, ma non è che si può dare ragione a qualunque ma lo fai matto sentire, che telefona. Però. Ma non è un matto, questo non mi sembra matto. No, ma quel che dice è da matti, secondo me. Non è che lui lo è, quel che dice da matti. Poi no, mi fa sorridere De Bortoli che dice che domani farà una crociata per difendere che crociata? La satira. È la libertà di informazione. Non è un valore che deve essere condiviso e esportato in tutte le culture. Ma esportato dove? Ci sono culture che non la conoscono e non la sanno neanche interpretare ed accettare. È come la democrazia in Iraq, che in realtà ce l'aveva altri intenti. Allora, siamo diversi in ogni contesto, in ogni classe che abbiamo frequentato, scolastica, c'era il bullo violento. Si sapeva che andandolo a irritare si sarebbe rimediato una randellata di botte, però tutti andavano a stuzzicarlo perché era quello un po' indietro di testa che non capiva le battute e che reagiva con le mani. Questa è un'esigua minoranza di gente che culturalmente non è in grado di capire. Ma io non ho capito perché questi... minoranza. Sì, ho capito, Enrico. Allora, questi qua facevano... Questi qua, che cosa... Le faccio un altro esempio, no? A un certo punto hanno fatto, in alcune vignette, c'erano due islamici che parlavano tra di loro. Uno è Maometto, l'altro l'altro era un altro islamico. Blasfemo, hai dipinto il volto di Maometto, dice Maometto a un altro. Non è il suo volto, ma il suo pene. Ok, ma ti tengo d'occhio. Perché faceva il naso uguale che sembrava il pene di Maometto. Cioè, la satira è questa. E si può fare. Cioè, perché secondo lei non si può pigliare per il culo Maometto? Non ho capito. Si può fare, però poi quando succedono queste cose non si può dire adesso militarizziamo tutta l'Europa, perché non si può controllare una sparuta centinaia di estremisti. Cioè, lei dice che se la sono cercata. Non bisogna provocarli. Ma come dico di non bisogna provocarli? Ma se la provocazione è questa, una vignetta di un settimanale francese, ma sì, dai, guardi, ma siamo che la cosa serve? Solo a tra vendere la, qualche copia in più, non nelle a cultura, nelle democrazie, caro Enrico, nelle democrazie funziona che non c'è la spada o la pistola, eventualmente ci sono i tribunali. Cioè, se uno si sente offeso, se uno si sente offeso da una vignetta, ci sono i tribunali, non le scimitarre, le pistole, le dinamiti, gli uomini bomba. Esistono i tribunali. Allora, capito? Lei domani va in un quartiere degradato di una periferia di una città, vada ostentando un orologio, un Rolex, così. Ma non può paragonare, non può paragonare. Ma no, ma Enrico, ma lei non può paragonare un tizio che fa delle vignette, dei disegni satirici su un giornale, a uno che va a, che ne so, a Scampia con Rolex così. È una cosa ridicola, non ha senso. È chiaro che se tu vai a Scampia con Rolex così, però ti suicidi o a Scampia in un altro posto. Io non so se queste persone alla fine si sono uccise. Ma come si sono uccise? Che vuol dire? No, dopo aver fatto questa strage. Non hanno manco trovate ancora. Di che stiamo parlando? Noi non ci rendiamo che c'entra, conto, scusi, non ho capito. Del livello di delirio che hanno questi estremisti. Oh, questi hanno avuto il coraggio, questi, che ne dica la Padovani che dice che erano degli islamofobi che ha detto degli anti-israeliani, eccetera. No, ha detto antisemiti e giornale islamofobo e antisemita. Allora, che nel merito può dire. Sì, ho capito, però che ne dica la signora Padovani, questi qua hanno avuto il coraggio di prendere per il culo, anche c'è anche una bella vignetta con Maometto con il culo di fuori, tra l'altro, che bisognerebbe rievocare. Speriamo che domani da Bortoli sul Corriere della Sera o su altri giornali qualcun altro se lo ricordi. Anche il signor Napoletano dovrebbe farlo, perché domani non fa due pagine, forse ci ha già pensato, sul Sole 24 Ore dovrebbe essere fatto questo, due pagine con tutte le vignette di Charlie Hebdo. Qual è il problema? Sarebbe anche il Sole 24 Ore, il giornale economico, dovrebbe fare una cosa di questo tipo domani. È normale che sia così, ma perché sì, si può pigliare per il culo e anche disegnare Maometto con il culo di fuori. Gianni da Verona. Sì, buonasera. Sì. Io sono d'accordo, ho un ritorno in cuffia, ma... Beh, noi non d'accordo. Abbiamo nessun ritorno, lei però. Non ha nessuna cuffia. Soprattutto non ha nessuna cuffia, lei. Credo. Però... Magari c'ha degli auricolari, ma non credo che abbia la cuffia. No, può darsi pure che abbia la cuffia. No, l'iPhone in mano. Allora? No, volevo dire semplicemente che nessuno ha il diritto di fare quello che ha fatto questa gente a causa di queste vignette, né a causa di qualsiasi altra cosa. Non si possono permettere di venire qui. Vabbè, questo però è scontato, Gianni. Se lei mi viene a dire non si possono permettere di venire qui, di venire in Europa ad ammazzare, vabbè, siamo tutti d'accordo. Allora ricordare che molti di questi sono francesi, peraltro. Che l'Islam è l'unica religione che implicita nella sua cultura ha la cultura del nemico. Nel senso che quando uno dice che non è d'accordo con l'Islam, che non con la religione musulmana, diventa automaticamente un nemico e qualcosa da uccidere. Questo non si dice. Sì, ma è così fondamentalmente. Poi non tutti gli islamici lo fanno, però nell'Islam c'è un fondo di intolleranza che in altre religioni non c'è. No, c'è un Islam politico. Francesco D'Ancona, dai, Francesco D'Ancona. Sì, buonasera Cruciani. No, volevo dire che l'articolo di Giannulli a me sembra interessante. E riportare il fatto chi c'è dietro, che è l'ultima frase, tra l'altro scritta con molto garbo, perché sappiamo benissimo, la storia ce ne insegna, che dietro gli atti di terrorismo spesso o comunque a volte ci sono anche servizi segreti, mi sembra un'osservazione di buon senso, a meno che non vogliamo. Cioè, ma questi qua di Charlie Hebdo hanno fatto una vignetta a favore del matrimonio omosessuale in cui c'era Gesù Cristo, la Madonna, lo Spirito Santo raffigurato una sorta di trenino, sì, con gente che si inculava a ripetizione. Sì, cioè, questi erano questi qua di Charlie Hebdo, capito? Diciamo, cioè, un trenino, una specie di trenino sessuale, sai, i trenini, no? In cui sì, c'è, adesso non entriamo conosci i trenini, che, no, ma per far capire, conosco i trenini. come siamo alla radio, bisogna far capire questa vignetta. C'è una vignetta. Dice Trenino, comunque no, basta, c'è una vignetta in cui c'è scritto mariage homo, cioè matrimonio omosessuale, il padre, il figlio, lo Spirito Santo. Esatto, con, e fanno un trenino, cioè erano così, ma erano così, erano dissacranti, pigliavano per il culo il Maometto e per questo sono stati ammazzati. Invece, secondo questo Francesco, c'è il complotto. Che è successo, Francesco? No, no, ma questo lo dice lei. Io dico semplicemente che mi sembrava che lei lo stesse dicendo, scusi. No, no, se lei ascolta, ma solitamente né lei né. No, noi ascoltiamo, guarda, ascoltiamo, allora, però parliamo anche. Non stiamo zitti, per fortuna. Benissimo, allora, se, oltre a parlare, si ascolta anche l'articolo di Giannulli. È un articolo completo. Non me lo deve dire lei, lo faccio comunque. Che parla fin dall'inizio, che fa una bella distinzione tra islamista, fondamentalista, terrorista. Beh. Invita per primo tutti i giornali d'Europa a pubblicare diciamo, le vignette dei giornali. Ottimo. E poi alla fine dice: oh, poi nulla vieta che dietro ci sia anche qualche terrorista, perché la storia ce l'insegna. Allora, cosa c'è? Che ci sia dietro? Qualche servizio segreto, ma io, scusi, maniera... ma se uno non sa ma che, ma perché la storia, ma ho capito, ma uno parte storia, subito sul blog di Grillo, con tutto il rispetto per Giannulli, a dire che dietro ci sono i servizi segreti, ma di che stiamo parlando? No, su. ma non sempre è una possibilità. Se lei esclude la possibilità, ma che esclude, ma nessuno esclude nulla, nessuno... Allora basta, lei, sì, non ma... può prendere la parte finale di un articolo, a parte che è Parenzo cosa... che ha citato Beppe Grillo, io no. Il solito Parenzo, perché Parenzo è, sì, perché è senso unico col non bonetto. È a senso unico per niente. Quando Grillo, no, il suo blog diranno unico, delle cose a mio avviso intelligenti, dirò: bravi, hanno detto una cosa intelligente. Allora, perché non fino dice ad oggi non l'ho visto l'articolo che è intelligente. Ma quello che voglio dire è che negli interventi questa sera di tanti cittadini ci sono tante osservazioni intelligenti, perché per quanto io dico che è giustissimo che ognuno deve fare delle vignette satiriche e prendere il culo chi vuole, ma è chiaro che l'esempio che faceva il cittadino precedente, che comunque sia, poi se qualcuno folle, pazzo, terrorista o fondamentalista prende, va lì e le ammazza, non è che è andata a ammazzare la suora in campagna che non diceva niente contro gli islamici, è andata a ammazzare qualcuno che li prendeva per culo. Loro dicono: voi non ci potete prendere per culo, io ti ammazzo. Per carità, per me vanno condannati, perché ogni forma di violenza va condannata, allora? Ma va condannato il singolo. Ma allora dovremmo trovare il modo di trovare questi. Chi è che dice il contrario? Chi è che dice il contrario? Ma io non sto dicendo che lei dice il contrario, io dico semplicemente che da qui nascerà la solita guerra contro. Vediamo. Il sistema islamico. Sul blog di Grillo, scusi, perché siccome l'ha citato, allora, sì, e io l'ho criticato su Twitter, adesso glielo ripeto. Qualche folle scrive: sicuramente saranno stati i fanatici islamici a cui le lobbies hanno permesso di spadroneggiare nei paesi occidentali, ma sarebbe molto bello sapere chi ha mosso i fili. Ecco, io penso, con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari, che chi ha scritto questa cosa ha scritto una stronzata. Con rispetto. Tranquillo, leggero, piatto, però, dai, con noi Massimo Fini, buonasera. Buonasera a voi. Come sta Fini? Malissimo, grazie. Che è successo? Come malissimo? No, non è una bella risposta, perché tutti quanti dicono benissimo, sì, e tutto passa in cavalleria. Effettivamente la vita non è bella, diciamo la verità. No, poi no, in particolare oggi la vita non è bellissima, perché sono morte 10-12 persone. 12. Io però voglio chiedere una cosa a Massimo Fini. Sì. È vero o no che c'è rispetto ad altre religioni? Cioè, questi qua alla fine hanno ammazzato dicendo Allah è grande, hanno ammazzato dicendo che devono vendicare Maometto, evidentemente... Non c'è una rivendicazione scritta per le vignette, di almeno da quello che possiamo intuire, poi chissà cosa c'è dietro, per le vignette pubblicate su Maometto, alcune pesantissime, con Maometto con il culo di fuori, per carità, però sono vignette ed è la satira. È possibile prendere per il culo Maometto? Secondo me sì. Per te, Massimo? Ma senz'altro, questa è la nostra cultura e noi in casa nostra facciamo quello che vogliamo. Sì. Però c'è un fatto che... Il come si dice, io avevo scritto alcuni mesi fa un pezzo sul Gazzettino, mi pare, in cui dicevo che se continuavamo a attaccare le postazioni dell'ISIS in Iraq, questi avrebbero poi portato la guerra in Occidente. Cioè, secondo una logica che è molto semplice, tu porti la guerra a casa mia, io allora la porto a casa tua, e la porto naturalmente nelle forme in cui possono portarle qui, cioè quello del terrorismo. Cioè, mi stai dicendo, scusa Massimo, che a parte che avevano annunciato un attacco alla Francia, eccetera, eccetera, ma al di là di questo, e posto che questi qua siano persone mandate lì dall'ISIS o pagate dall'ISIS, parlavano francese, erano molto addestrati, eccetera, eccetera, sembravano molto addestrati. Sicuramente fanno parte di questa galassia antioccidentale, di cui l'ISIS, diciamo, è oggi il centro, ma che però guarda... tu dici, scusa, per seguire il tuo ragionamento di prima, tu dici che se noi non avessimo portato un attacco di quel tipo, questo l'hanno detto anche gli islamici, aspetta, all'ISIS, quello che è successo a Parigi non sarebbe avvenuto. Sì, io dico questo, dico che c'è anche colpa nostra. Beh, non c'è dubbio, voglio dire. Ma come non c'è dubbio? Voglio dire, sono 10 anni che l'Occidente è all'attacco nel mondo islamico. Prima l'Afghanistan, 2001, poi l'Iraq, 2003, poi... Massimo, è il contrario. È il contrario, Massimo, io ti rispetto, ho letto tutti i tuoi libri straordinari, di cui non condivido neanche una riga, ma sono bellissimi, il Mullah Omar, l'elogio del Mullah Omar, hai scritto delle cose intellettuali fantastiche. Però sono loro che hanno attaccato. Però sono loro che hanno dichiarato guerra all'Occidente, non il contrario. Beh, mi risulta, dalle Torri Gemelle in avanti, non mi pare che, voglio dire, siano degli irenici questi qui. Vabbè, che comunque, hanno... secondo me il ragionamento di Fini, siccome noi da dieci anni portiamo un attacco, noi l'Occidente, gli Stati Uniti, eccetera, portiamo un attacco lì, non ci dobbiamo stupire che questi qua ammazzano 12 vignettisti, entrano dentro un giornale e fanno una strage. No, possiamo, dobbiamo commuoversi, volersi, certo, tutti gli altri, eccetera. Dire condannare non ha molto senso, perché qui non siamo di fronte a un terrorismo interno come le Brigate Rosse, allora condannare serve a, diciamo, scoraggiare altri a unirsi. Qui siamo di fronte a un attacco esterno. Tu cosa fai? Condanni il tuo nemico che ti uccide, è privo di senso, no? Cioè, tu dici è inutile condannare, perché alla fine, siccome gli abbiamo portato la guerra in casa loro e vogliamo colonizzarli, questa è la tua tesi, ma loro sono legittimati a rispondere. Loro rispondono. Cioè, tu li capisci in qualche modo? Sì, io li capisco naturalmente, certo che li capisco. Cioè, li capisci e in qualche modo, diciamola tutta però, senza infingimenti, perché sennò tu non sei una persona che è ipocrita da questo punto di vista. Cioè, non dico che li giustifichi, perché non giustifichi l'ammazzamento delle persone, però tu dici, se uno piglia per il culo Maometto, se noi attacchiamo... Maometto qui c'entra poco. L'obiettivo è stato il giornale Charlie Hebdo, ma poteva essere un qualsiasi altro obiettivo, e questo è il grande pericolo che noi corriamo, perché gli obiettivi e la difficoltà estrema di difenderci, perché gli obiettivi possono essere infiniti. Cioè, tu dici, siccome noi siamo colpevoli sostanzialmente di voler portare l'Occidente e di voler colonizzare gli islamici, questa volta sarà Charlie Hebdo, un'altra volta sarà un'altra roba, ma alla fine i veri colpevoli di questa situazione siamo noi. Voglio chiederti questo, Massimo, adesso non è che siccome c'è l'ISIS che fa la guerra all'Occidente, questi sono autorizzati a distruggere ad esempio la bellissima chiesa che c'è a Bologna di San Petronio, dove dentro c'è un affresco che si chiama Maometto all'inferno. Allora, questa chiesa oggi è in pericolo perché è uno degli obiettivi sensibili dei fondamentalisti islamici. Maometto all'inferno si chiama, lascia stare le vignette. A Bologna c'è una chiesa che si chiama San Petronio, che è fondamentale nella storia della umanità e anche nella storia dell'Occidente, con un affresco straordinario, il cui titolo è Maometto all'inferno. Capisco gli affreschi, ma se tu nella prima guerra del Golfo, bombardando... come hanno bombardato gli americani, uccidi 160.000 civili, di cui 32.195 bambini, su questi soldati del Pentagono, e capisci che l'affresco vale, ma 32.195 bambini che sono bambini come i nostri. Cioè, quindi capiresti il fatto che noi vediamo, voglio dire, è ovvio, è anche naturale che noi vediamo le nostre vittime, ma non vediamo mai le vittime che facciamo. Cioè, tu dici, altro che 12 redattori o 12 persone là, noi ammazziamo molta più gente. Da loro. Sì, però lo facciamo in modo diverso, nel senso che sono bombardieri, sono droni, eccetera, ma quando questi arrivano, no? Questi ammazzano sia i guerriglieri, questo è giustissimo, ma ammazzano anche non so quanti civili alla volta. Per cui paradossalmente siamo più violenti noi di loro? Eh sì. Ma tu ti sei commosso alla fine? No, aspetta, aspetta, ma questa. Oh, sì, è questo. Io ascolto la tesi di Massimo Fini. Anch'io l'ascolto, l'ascolto. E ho letto tutti non i suoi sono libri, d'accordo, però ma non l'ascolto. Sono d'accordo. Com'è nella. Che non è com'è nella sì, certo che lo puoi dire. Com'è nella tradizione della zanzara? Ascoltiamo anche le tesi le più disparate. Massimo Fini, li ho letti tutti. No, però voglio dire a Massimo Fini una cosa. Dunque, diciamo la verità, Massimo. Tu non ti sei commosso molto per la morte di questi qua oggi? No, sì, della morte sì, se non altro. Perché uno come Volinsky è stato un maestro per tutti. Però? Dico che questo attacco, in questo caso a Charlie Hebdo, ma questi attacchi agli obiettivi occidentali erano prevedibili, almeno io l'ho scritto 5, 6, 7 mesi fa. Cioè, se tu ti inserisci una guerra che non ti riguarda affatto, che è quella che conduce l'ISIS in Medio Oriente, poi è chiaro che ti puoi aspettare anche cose di questo tipo. Tu porti la guerra a casa mia, io la porto a casa tua, non si tratta di giustificare, si tratta di un dato di fatto. Però scusami un attimo, secondo te però nella guerra si uccidono gli eserciti, secondo te, scusami, qui si uccidono i civili, secondo te è una roba diversa qua. È Parenzo che parla, sì, è Parenzo. Scusami Davide, la storia della guerra asimmetrica, no? Da una parte tu hai potenze armatissime, tecnologiche e quant'altro, sì, sì. E dall'altra hai invece gente armata. Coi mitra. È chiaro che questo. A parte che non è così, anche gli altri sono armati di tutto punto, ma comunque insomma. Beh, non c'hanno gli aerei, non c'hanno i droni, non mi pare, insomma. No, non hanno la tecnologia. C'ha però, le armi, però. No, hanno le armi, c'è anche sofisticate. Comunque non hanno certamente le armi nostre, su questo non c'è dubbio. È chiaro che a un certo punto l'unica possibilità di difesa, adesso non parliamo dell'ISIS, ma penso per esempio all'Afghanistan, che mai terrorista era stato, e a un certo punto di fronte a un nemico che non invisibile ti fai esplodere. Che possibilità ha una resistenza? Oppure, diciamo, ma tu questi qua col mitra che hanno ammazzato il poliziotto per terra, un po' li capisci? Che hanno ammazzato questi qua, un po' li capisci? Ahmed, no, il poliziotto che è morto. Io proprio non con la cupa religione islamica non ho un cazzo che vedere. Non mi piace dell'ISIS, non mi piace in assoluto il modo con cui trattano i prigionieri, questa storia. Però? Che sta, quindi non posso simpatizzare per l'ISIS, però capisco che attaccati dall'Occidente in una guerra che stavano legittimamente vincendo, questi rispondono a modo loro. Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Sei ancora a casa? Allora, voglio dire a Massimo Fini che il Financial Times parla Fini, Hollande, no, ma chi se ne frega? Allora, Financial, a noi non ci importa niente, tanto quello che possono dire i politici sono tutte cose formali oggi, poi le cose che succedono con i servizi segreti, con le reazioni, eccetera, chissà quando li sapremo, se le sapremo queste cose. Ma voglio chiedere a Massimo Fini una cosa: il Financial Times scrive che i giornalisti di Charlie Hebdo sono stati stupidi. Sono stati stupidi, si sono comportati in maniera stupida, anche se il magazine si ferma poco prima degli insulti veri e propri, non è comunque il più convincente campione della libertà di espressione. Con questo non si vogliono minimamente giustificare gli assassini, è solo che per dire che sarebbe utile un po' di buonsenso nelle pubblicazioni che pretendono di sostenere la libertà, quando invece provocano i musulmani. No, in questo caso è stupido il Financial Times. Il Charlie Hebdo ha il diritto, ripeto, siamo in Occidente, abbiamo una certa... Cioè non se la sono cercata secondo te? No, c'è un diritto che non si può discutere da noi, che è quello della libertà di espressione. E quindi loro avevano tutto il diritto di far questo. Ma ripeto, sono stati uccisi dagli occidentali, tu invece, dai governi occidentali. No, diciamo... io dico una cosa diversa. Dico che l'aggressività dell'Occidente nei confronti del mondo arabo-musulmano in atto da una quindicina d'anni e radicalizza parte del mondo islamico. Questo bisognava aspettarsi, questo è successo. Senti, ma una cosa. Contrario. Sì, sì, no, ma io voglio capire una cosa, ma tu se fossi un islamico oggi ti comporteresti allo stesso modo? Ah, questo proprio non lo so. Io non sono un islamico né faccio parte di quella cultura. Dico che ci dovrebbe essere un rispetto reciproco delle varie, come noi occidentali cerchiamo di portare il nostro mondo, le nostre istituzioni, le nostre culture in questi mondi altri, in queste culture altre, questa è una violenza che poi provoca un'altrettale violenza. Va bene, ciao, ciao Massimo, ciao a voi. Ciao. Allora, l'imam di Segrate, tanto per far capire come interpretano l'Islam alcuni di questi qua, molti secondo me di questi cosiddetti imam, l'imam di Segrate, che Parenzo conosce bene per aver invitato più volte nelle sue trasmissioni quando lavorava qui a Lombardia, Ali Abu Shuaima, sì, lo conosco molto bene, sostiene, ultimamente che cosa ha fatto? Ha diffuso urbi et orbi un libretto di un tizio saudita. In questo libretto c'è scritto la poligamia costituisce una legislazione divina che ogni fedele deve considerare come tale e non contraddire. Vabbè, quello anch'io sono per il poliamore, però per il poliamore, non per la poligamia. Vabbè, per il poliamore, però. Dettagli, questi sono dettagli. Ma no, non sono dettagli, scusa. Che differenza c'è? Quelli il poliamore è una cosa, la poligamia è un'altra. Alcuni islamici lo regolamentano, no? E tu invece vuoi passarti fiore in fiore, mentre loro dicono sì, passi. Il poliamore è un'altra cosa. Il poliamore è una cosa, la poligamia è un'altra. Prevede anche il rassemblement tutti insieme. No, però non prevede la cosa, non è che prevede più matrimoni insieme, dai. No. Perché il divorzio spetta all'uomo, scrive sempre questo libretto, perché la situazione dell'uomo naturalmente e logicamente gli permette di avere l'ultima parola in materia con i quali, cioè il divorzio spetta solo all'uomo, secondo questo signore saudita, condiviso da Bushwaim. L'Islam vieta alla donna di mettersi in viaggio da sola, senza che sia accompagnata da un parente vicino come il marito, il padre, il fratello o un altro parente con il quale è vietato il matrimonio. Beh, questo anche estremisti ebrei sostengono, come no? Sostengono cosa? Ma estremisti religiosi, che religiosi ultra ortodossi ebrei sostengono che la donna non può viaggiare accanto ad un uomo, per esempio, ma deve viaggiare accanto al proprio uomo, oppure alcuni ultra ortodossi è diversa la norma, non è assolutamente così. Come gli ultra ortodossi se la donna è sposata deve stare in viaggio vicino al proprio uomo e non vicino ad altri uomini. Vabbè, ma questo non fa male a nessuno. Ma è assurda, ma non c'è violenza in questo, se le parti che accettano queste condizioni lo vogliono. Cioè, su questo bisogna essere anche un po' liberali, però, perché sennò se uno non cerca possiamo giudicare assurda qualunque cosa. Poi aspetta un attimo, sempre questo libretto saudita, si ricorre all'atto di picchiarla, questa è la cosa più grave, si ricorre all'atto di picchiare la donna senza violenza, senza provocarle una frattura o lasciarle tracce, evitando sempre i danni al viso, lo scopo essendo di ristabilire la disciplina e non di fare del male o provocare danni, ma di farle capire che la sua insubordinazione è inammissibile. Cioè, si deve picchiare una donna per ristabilire la disciplina, per la sua insubordinazione quando si verifica, ma attenzione, senza fare danni evidenti al viso. Questa è la come si picchiano le donne. Ma guarda che in Italia fino a pochi anni negli anni 50 divorzio all'italiana, tu. Negli anni 50 addirittura, non eravamo così indietro come lo sono i sauditi o quant'altro, non ma anche così, noi abbiamo avuto la nostra emancipazione della donna, specie da alcune parti del sud, era molto molto molto più lenta che in altre parti, fidati, e lo sai. Stai paragonando l'Islam di oggi alla situazione della donna in Italia negli anni 50 in Sicilia. È ridicolo. La donna certamente non veniva menata, ma no, veniva anche menata in alcune occasioni. Forse in alcune occasioni. Stai facendo dei paragoni che non esistono. No, dai. Ma è vero che anche noi abbiamo avuto la nostra lenta evoluzione sui diritti Raffaele delle donne. Raffaele da Roma. Ma certo, vabbè, Raffaele da Roma. Quindi Cruciani. Dimmi. Per fortuna riesco a intervenire, perché sennò anche tu prendi delle derive assurde. Dimmi quali sono queste derive. Sì, questa della donna picchiata, adesso c'è ben altra carne al fuoco. I colpevoli, gli stupidi, siamo noi, è la società occidentale, è la gente come Parenzo, perbenista, progressista, democratica. Ma che c'entra perché, questo? Sì, te lo spiego io, ti hai chiesto a Massimo Fini, sì. Tu lo faresti se fossi islamico? Vedi che non capisci il punto. Il degrado culturale e umano di una grandissima parte di quel mondo che tu evidentemente non riesci a comprendere. Vabbè, non vai neanche in una borgata probabilmente. Ma che c'entra la borgata? Allora, il degrado umano è il degrado, tu dire, il sociale, degrado dove ti metti paura perché vedi la gente che ha la faccia cattiva. Allora, il degrado umano e sociale è totale, è alto. Gli stupidi siamo noi che siamo sempre lì a dire che c'è l'Islam buono. La gran parte dell'Islam è così e fanno bene, nel senso che nella loro ottica vanno su un argomento religioso che secondo me, da piccolo giurista, da laureato in legge, ti posso dire che è una grandissima scemenza, perché c'è un detto, un brocardo che dice summum ius summa injuria, quindi grande legge, grande ingiustizia. E allora? Perché ci devono essere dei limiti ai diritti, e questo anche i diritti di cui si riempiono sempre la bocca i comunisti, e non ai doveri. Allora, il limite alla satira, sicuramente se un limite ci deve essere, e ci può essere, è proprio quello religioso. Perché se tu fossi il sindaco, il podestà di una... perché le leggi... Ma io non ho capito, però, scusa, il tuo ragionamento che non afferro ancora, dove arriva, dove vuole arrivare? Te lo faccio... Cioè, hanno sbagliato subito. Questi qua, deve essere un limite anche per la satira, non ho capito. Sì, esattamente. Ma tu sei pazzo, io voglio pigliare per il culo, io voglio prendere, al contrario di quello che dice il Financial Times, io voglio avere il diritto di mostrare Maometto con il culo di fuori, chiaro? Cruciani, tu devi capire una cosa. Sì, senza che qualcuno sia legittimato a venire qui a prendermi a mitragliate. Le leggi non sono fatte sull'utopia del mondo del paradiso. Le leggi sono fatte per essere utili a una società data. Senti, amico mio, in questo caso adesso non fare filosofia con me. Il punto fondamentale è uno. Vabbè, è caduta la linea. Barry da Salerno, dai. Barry, Salerno. Dimmi. Sì, ma lei togli viva voce, togli l'auricolare, togli il microfono, dai. Dai, mamma mia, siamo veramente all'ABC, forza, Barry, dai. Ok. Dai. Adesso mi senti bene? Dai, dimmi. Allora, il problema è questo, che voi non potete capire. No, infatti noi non capiamo una mazza, dai. Quando i cristiani attaccavano noi islamici, voi eravate in netto contrario a quello che insegnava il vostro maestro Gesù Cristo. Non uccidere, facciate la traduancia. A noi la violenza ci ha insegnato dal Corano da piccolini. Quindi uccidete i infedeli ovunque loro si trovano. Noi crediamo ancora che Israele sarà distrutta. Noi crediamo ancora nelle violenze. Scusa, Barry, tu che cosa sei? Che cosa sei, di religione islamica? Allora, io dico una cosa. Ma che cosa sei tu? Tu penserai tutti gli altri. Mica ho capito che cosa sei. Sei tunisino, egiziano. Avranno paura di prendere in giro i nostri profeti. Voi avete paura perché voi non avete le palle. Allora, se voi non avete le palle, non prendete in giro con coloro che è più forte di voi, perché noi abbiamo coraggio e voi non avete coraggio. Voi ma questo chi lo sostiene? Noi andiamo di persona a prendere dentro del vostro ufficio, nelle vostre camere da letto, nelle vostre camere, ci portiamo fuori e ci spariamo in testa. Allora, se voi non avete coraggio, non toccate un piede forte. Ma io ti mando a fare in culo. Ma è sai che fa questo? Spara, non è scritto nella nostra religione. Non è ma io lo so che è così, ma tu sei un criminale se pensi una cosa del genere. Sono religioso, siamo religiosi, punto. Allora, siamo religiosi, quella è una vendetta, basta, e senza che prendete tanti in giro. È scritto nel nostro Corano, voi ti dovete rispettare, se non rispettate pagherete, arrivederci. Ma sei impazzito, richiama questo qua, tu sei un criminale, sei. Ma cos'è questo qui? Barry, o come diavolo si chiama, si è presentato così, Barry da Salerno, cioè questo dice, siccome noi abbiamo scritto nel Corano che siamo violenti, bisogna rispettarci, voi invece non avete il coraggio di farvi valere, dunque noi entriamo, se voi ci offendete entriamo nei posti e vi ammazziamo. Signor Barry da Salerno, capite? Signor Barry, me lo richiamate questo stronzo per favore? Richiamami questo stronzo. Beh, ci sta, sì. Richiamatemi questo stronzo, in questo caso ci sta. Adesso non risponde questo Non risponde a questo criminale, non risponde a questo, codardo, bello. Questo codardo da Salerno. Codardo, ma che codardo, ma che codardo. Ma sei un codardo, ripeti, abbi il coraggio di ripetere quello che hai detto prima. Vediamo se hai il coraggio di ripetere quello che hai detto prima. Ma scusa, perché un sangue del tuo figlio è sangue, un sangue dei nostri figli è acqua, scusami. Io non ho perché? Capito, sei tu che ammazzi la gente, io non ammazzo nessuno, perché? Capito? Perché non ammazzo nessuno, voi ammazzate, le tue mani grondano di sangue. Le mie mani? Anche tu sei colpevole di quello che fate, sì, anche tu occidentale. Non vi preoccupate, ma nessuno qua ha paura di te, Crociano, né di te, né di nessuno. Ma io infatti non voglio fare paura a nessuno. Hai capito? Sei tu che chiami... Non fa paura, non fa paura, perché la vendetta dell'Islam può ti arrivare pure dopo tanto tempo e ti vedranno tutti i tuoi manifesti per le strade. Ma che pazzo, questo non è una minaccia, perché non sarò io a venire a uccidere. E chi invece? Continuate a prendere per culo e poi andrà a tenere. Io piglio per il culo chi voglio, anche Maometto, capito? Piglio per il culo anche Maometto, hai capito, Barry? Fai quello che vuoi. Ma io non ho capito perché non si può. Arriverà pure per te. Ma arriverà un cazzo, io ti segnalo le autorità, ti segnalo. Hai visto che sei codardo, già cominci a segnalare l'autorità. Beh, certo, scusa, pure minaccia di uccidermi, non lo segnalo, ma che discorso è? Mica sono coglione, oh. Come? Prendiamoci a pugni e te. Già che tu sei coraggioso. Ma che pugni? Ma che c'entra? Vuoi chiamare l'autorità? Vuoi chiamare i carabinieri? Guardi, professore, tu mi stai pigliando, come la sto pigliando con te? È una discussione tra te. No, stai dicendo, ma abbi pazienza. In Occidente non funziona così. Venga a Milano, da Nasa e tutti quanti, facciamo combattimento. Ma quale combattimento? Ma nella giungla funziona così. Qui, pronto? Qui è Occidente. Pronto? Qui c'è un'evoluzione, ci sono tribunali. Pronto? Non è la savana, amico mio. Non è la giungla, Barry, Barenzo, cazzo! Barenzo, non è la giungla! Barenzo. Non siamo nel Medioevo con le lance, i cavalieri! Vieni a sfidarmi! Ma io non ho capito! Da uomo a uomo questo! Barry, io non ho capito una cosa, scusa, signor Barry, o come diavolo ti chiami? Innanzitutto vorrei capire tu da dove vieni, di che origine sei, egiziano, tunisino? No, non mi interessa, mi vuoi denunciare! Ma no, ma chi denunciare? Mi vuoi denunciare! Ma quando mai? Mi vuoi denunciare quando non ho ucciso nessuno! Io se vengo logo ti spezzo solo la faccia, ma non ti uccido. Solo? Hai capito? No? Mi spezzo solo la faccia. Mano nuda. Ma io vado a mano nuda, ma sono tre volte che sono appiccicato, vado in galera perché ci ho picchiato. Dammi gli anni che ci vuole. Beh, certo. Almeno le giustizie, Crociani, di mettere veramente un pugno in faccia come tu merita da tanto tempo. Però scusami, Barry, io non capisco una cosa. Lascia perdere me che tu, mi dice. Tu mi vuoi denunciare, no, male. Ti voglio denunciare. Io sono, tu abiti, già hai il mio numero di telefono, ma mi vuoi denunciare. No, ti voglio denunciare perché dici. Perché sostieni che alla fine per quello che io dico e per quello che noi sosteniamo, per il fatto che qualche fratello ha ucciso qualcun altro, ma non sono io, sono i fratelli che hanno ucciso. Sono i fratelli, un cazzo, sono dei criminali. Dillo che sono dei criminali quelli che hanno ammazzato quelli là in Francia oggi. Dillo, sì. Dillo. Ma perché devo dire quelle parole che dice tutto? Dillo che sono dei criminali assassini, non lo dici? Vergognati, vergogna, vergogna, vergogna, vergogna. Vergognati! Non mi pare, non dico quello che dici tu. Vergognati! No? Devi vergognarti. Non metti parola nella mia bocca. Vergognati, mia bocca, vergognati. Hai capito o no? Perché non dici che sono gli assassini quelli che hanno ammazzato quel poliziotto per terra? Quel poliziotto per terra. Ma devo dire perché mi comandi tu. Ma no, li comando io, perché sono degli assassini, perché sono oggettivamente degli assassini. Gilli, ma chi sei tu per dire Gilli a me? E allora, sono amici tuoi, sono tuoi fratelli quelli, sono tuoi fratelli. Ma non mi rompo, no, allora tu non devi fare la caricatura a me, non devi dire quello che sono io. Ma te la fai da solo la caricatura. Non fingere con la tua bocca. Io sto dicendo soltanto che nel Corano sta scritto uccidete i fratelli, o Dio ci ha detto infedeli, basta. Ma ho capito, ma non è una cosa positiva. Se la con il Corano. Scusa, la Bibbia è tua. Scusa, nella Bibbia non c'è scritto di ammazzare nessuno. Nel Corano sì. Sì, ma il Corano sì. Ma ho capito, anche se c'è scritto nel Corano, io me ne fotto del Corano, me ne sbatto i coglioni. Ci sono le leggi italiane qui, non il Corano. Hai capito o no? Allora, a religione non importa, io anche se sono in Italia, sempre musulmano, sono sempre all'Islam. Ecco, vedi la differenza, allora, qual è questa? Quella. Dai, su, dai. Allora Crociani, non vi fate illusioni. Il Corano è scritto, uccidete i fedeli ovunque si trova. Noi aspettiamo ancora di vedere tutto Israele in cenere. Punto. Capito, Parenzo? Non capiterà mai. Capito, Parenzo? Ho capito che questa è la verità. Tu aspetti. Stato. Tu ma ragioni. Ma ha fatto una ragione. Mi faccio nessuna ragione, perché penso che per fortuna l'Islam non è tutto come lo interpreta, dice. Allora lei. Io posso avere per fortuna. Tu sai benissimo, come noi ragioniamo. In fondo. Ma io infatti ho paura del fondamentalismo islamico. Moderato è il giornalista che si è convertito al cristiano e è andato a beggiare un culo del Papa. Quello è l'unico moderato, perché non è più islamico. Si vuole rimanere islamico, non sono moderato. Punto. No, io è inutile. Scusami, Berry, o come diavolo ti chiami, perché chiaramente non ti chiamerai Berry. Ma mi hai detto come diavolo ti chiama già due volte. Allora stiamo a sentire, scusa, non voglio più parlare con te, capito? No, aspetta, amico mio, aspetta. Non mi chiamare. Aspetta un attimo. Non mi chiamare. Sei tu che hai chiamato, perché mica io. Mi chiama Giccodardi, io ti sento per radio. Ma non dice se Codardo non risponde, non lo dire più. Ma che c'entra Codardo? No. Ma Codardo non risponde, non risponde. Più, perché non sono Codardo. Ma d'accordo, non sei Codardo. Infatti vuoi venire qui a spaccarmi la faccia e non vuoi dire nemmeno. Faccia. Te lo trovi sotto casa. Se pure che tu mi butta tu il destro, se pure che tu mi vinci. Ma io non voglio combattere con te, non funziona così. Cos'è vincere? Questo vuole fare il duello con me. È un duello rusticano, amico mio. Si chiama Occidente questo. Ma non ho il coraggio, spada. Ma non voglio avere il coraggio, questo è il punto. Non voglio avere il coraggio di affrontarti in un combattimento. Però io nel dubbio a Benny l'indirizzo di casa tua glielo darei. No, no, quello no. Allora, Barry, io voglio però sapere una cosa, scusa, caro Barry. Perché non vuoi dire che questi signori che oggi hanno imbracciato un mitra, hanno sparato un poliziotto per terra, hanno ammazzato altre... Ma non posso dire quello che mi dici. Ma sono degli assassini, dei criminali, sono dei criminali. Io non voglio dire niente che mi dici tu. Ma dai, loro risponderanno davanti ai fucili che stanno per imbracciare quelli che non saranno catturati vivi. Su quello ti do ragione, non saranno catturati vivi, su quello non c'è dubbio. Ma faranno loro, pure loro, non è che venderanno a pelle a poco prezzo, non forse pensare. Ma tu parteggi, possono venire bene. Ma tu parteggi per loro, questo è il punto, tu parteggi per loro. Ma chi lo dici tu? Ma no, ma è chiaro che è così, dai. Lo dici tu. Comunque senti, parola nella bocca mia non mi dici. Vabbè, senti, caro Berry, l'hai detto prima, l'Islam dice alcune cose, voi non avete le palle. Allora, prendesela con l'Islam, prendi il Corano e picciolo. Hai capito o no? Senti, ma se io no. Scritto nel Corano, tu chi cazzo vuoi da me? Scusa un attimo, io ti voglio dire una cosa, perché non posso avere Parenzo sta benissimo. Vabbè, Parenzo, lascia perdere Parenzo che è ebreo, esa. Sì, guarda, io voglio capire una cosa. Ripetiamolo, Barry, io tono, voglio dire una cosa. Paura, perché io non posso, io voglio avere il diritto di disegnare Maometto con il culo di fuori. Perché non posso farlo? Spiegamelo. Barry? Non puoi farlo. Perché non lo posso fare? Spiegami, perché? Me lo devi dire tu? Se lo farai, ci saranno conseguenze. E per te è giusto? Cioè, secondo te è giusto? Magari i tribunali ci sono. Io non sto dicendo niente, sto dicendo ci saranno conseguenze. Voi non avete più coraggio. Mo' parecchie redazioni non lo faranno più. Eravate tutti coraggiosi, tutte le redazioni dovevano fare quello per cui... Sì, è vero, bisognava farlo prima, hai ragione tu, bisognava farlo prima. Però io domani... Guarda che domani il Corriere della Sera... Io indosserò domani, guarda, te lo dico a te, domani indosserò una maglietta, perché adesso mi avete rotto i coglioni, una maglietta con sopra una vignetta con Maometto, una presa in giro di Maometto. Indosserò questa maglietta... Voglio vedere se tiene coraggio, voglio vedere, queste sono parole, voglio vedere i fatti. Ma perché, non ho capito, ma non è che sono più forte così, perché sono... Ma questo è islamico o di Salerno? Io non so, io non ho capito, ma sei di Salerno o sei... Guarda, lascia sta. Voi state, mi stanno facendo questa intervista per fare inquisizione su di me. Per però fare inquisizione è una cosa storica. A me non me ne frega, diciamo. A me non me ne frega, perché io non sono andato a imbracciare i fucili. Ma che fai di mestiere tu? Di mestiere che fai? Allora, io non ho imbracciato i fucili. Ma che fai di mestiere? Che tu mi prendi, che stai aspettando per i carabinieri, sta sentendo questa chiamata. Io non ho imbracciato i fucili. Mi volete condannare per l'apologia? Io non ho fatto nessuna apologia. Beh, oddio, hai detto... ho detto che stai iscritto, ho detto che stai, ma fai di cash da voi tu, vuoi che faccia apologia, non fatto buono, ma fai apologia, bene, mi così, bene, ho capito, questo qua è mezzo di Salerno, non tengo né paura di te, né paura dei carabinieri, perché io sono onesto, quindi io onesti, non ha paura di nessuno, questo avete qua paura è... tu, ma questo qua avete è un paura, fake, dovete avete paura Berlusconi, Galan, tutti quelli che rubano, ladri, fedente, sporco, su canali dall'inferno. Ma questo qua è un misto, è un gran blow, perché è un misto, non si capisce. È stupendo, questo è meraviglioso. Barry, tu sei segnati domani il Corriere della Sera pubblica tutte le vignette che le ha già fatte sul sito internet. No, io voglio capire una cosa. Allora, voglio dire che questa telefonata non è una telefonata finta, cioè è una telefonata vera. Carità. No, perché sembra che ci siamo inventati una telefonata di questo Barry. Io non so, ma tu di dove sei? Voglio capire di dove sei. Non mi interessa. Ma come, a me interessa invece. Tu stai prendendo. Allora io voglio chiudere questa chiamata, perché io lo so che tu stai di questo cazzo resistendo per i carabinieri. Ma io sto ripetendo, io non ho imbracciato i fucili, a me non me ne fotta di te, Cruciani. A me non me ne fotta di te. Parenzo sa benissimo. Ma ancora di dai, che sembra di citarli, ma anche sa benissimo di quello che ho fatto. Sembra che sai tutto. Ma io non so. Perché sai non so tutto? Chi è questo qua? Parenzo sa benissimo. Ma sa benissimo che cosa? Islam moderato non esiste. Ma quello lo sappiamo, quello siamo consapevoli. Guarda, Barry da Salerno, come diavolo ti chiami? Però devi dire che questi sono degli assassini. Dillo allora, che ciao. Sono. Allora, guarda, come diavolo ti chiama? È la tua nonna. Lascia stare, lasciami stare, non mi chiama più. Ciao, vaffanculo, va. Ciao. La pace sia con te. Seems if they through the sand. So I'll tell you all the story about the Joker and the thief in the night. Gianluca da Roma. Sì, pronto. Dimmi caro. Ma guarda, io ti volevo dire che condivido completamente l'analisi che aveva fatto quel giornalista di prima, Fini. Questa, l'ultima telefonata, è la prova, cioè ti sei fatto cagare in testa da un beduino, voglio dire. Beh, adesso. Mi sono fatto dare in testa da un beduino. Non mi sembra un beduino. Dare in testa proprio. Cagare in testa da un beduino. Ma che è questo qua di Salerno, questo qua, Berri? Sì, che poi si è capito se era un beduino, se era un barese. Se la telefonata era vera. Ma è vera, era vera, ma perché avete sempre il dubbio? Ma allora vedi, ma con questi non c'è poi ragione, questi vanno presi e messi in croce al Colosseo. Ma vabbè, questi chi messi in croce al Colosseo? Però vanno messi, sì, per ricordarsi come facevano i romani, no? Quell'altre merde dei cristiani, dei pagi, quell'altro imbecilli, no? Chiediamo far capire un attimino che non è che ci hanno a che fare con le merdine, loro ci devono avere a che fare con gente seria. Cioè tu dici che alla fine bisogna dare una risposta forte, cioè dire ripristinare quella legge del taglione, no? Dente per no o no? Ma no, no, per dente, assolutamente. Occhio per occhio, che cosa? Dimmi. Ma assolutamente, vedi, il discorso è questo. Beh, quello hai detto tu, bisogna prendere i due maledetti che sono andati a Parigi, che era una redazione, no? E questi vanno messi in croce per la loro deficienza, in nome proprio della loro deficienza, non in nome del Dio esiste, non esiste. Ma vanno messi in croce, che dire? Fisicamente vanno messi in croce? Eh? Vanno, certo, vanno crocifissi. Certo. Ma proprio inchiodati questi vanno. Io, tun, tun, tun, tun, tun, tun, come fa il chiodo? Esatto. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Poco, e il sangue che esce, perché che gronda. Tun, tun, tun. Esatto. A proposito, io per esempio a Roma, là, vicino al Vaticano, così li vede pure il Papa, che capisce che quella cosa significa un'altra cosa. Allora voglio dirti, Parenzo, che ho un anello nuovo, un nuovo anello, tanto per dire che in Italia si può fare di tutto contro la religione cattolica. Ho un nuovo anello molto bello che mi è stato regalato, e in cui dal c'è mastro, quello di no non voglio dire da chi, no, non è da lui, è da un amico. Mi è stato regalato un nuovo anello in cui, in maniera molto blasfema, se vogliamo, in maniera molto, molto corrosiva, in maniera molto ironica, eccetera, c'è la Madonna. C'è sopra la Madonna, capito? Cioè, in Italia si può fare qualsiasi cosa contro la religione cattolica, per l'Islam, però, no, tutto intoccabile. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti. Bitonci, cosa ha detto oggi Bitonci? Che ha detto Parenzo? Bitoncino mio, ha detto che se a Padova c'è qualcuno che non prende, se non prendono le distanze dall'attentato, li caccia dalla città, Bitonci. Ma cioè, ha detto che se gli islamici della città. No, leggimelo. Ma ha ragione, bisogna prendere le distanze dagli attentati. Mia mamma mi scrive, mia mamma, guarda, agenzie, dichiarazioni. Sì, ho visto, infatti sto dicendo. Bitonci, via da Padova chi non condanna l'attentato di Parigi. Beh, sì. Esatto. Ottimo. Allora scusami. Ottimo. No, no, scusami. Ottimo. Non farmi incavolare subito. Ottimo. Cosa c'entra? Cosa c'è? Scusami. Perché allora uno come Massimo Fini vivesse a Padova, verrebbe allontanato dalla città. No, no, lui ma vuole dire. Ma ragazzi, ma ragionate. Bidonci vuole dire una cosa. Se Bidonci a Padova, chi non condanna la strage? No, cosa fa? Va in no, giro. Vuole dire. Va dagli islamici che abitano lì. No. Dice, scusi, ma lei condanna oppure no? No, vuole dire che molti se le associazioni sono italiani e padovani. Se le associazioni islamiche. Se le associazioni islamiche. Dai, ragazzi, su, siamo seri. Andiamo avanti, dai. Mario Borghezzi in collegamento da Bruxelles. Buonasera. Buonasera, sono appena arrivato da Parigi. Sì. Dove mi sono precipitato al 10. Ma che sei andato a fare? Scusa, Parigi, cioè, che sei andato a fare? Ho saputo notizia di questa fusillade, come dicono fusillade, i francesi. Sì. Ma che sei andato a fare? Scusa, la rompere i coglioni, scusa, Mario. No, beh, io sono stato in rapporto con alcuni redattori, sì. Avevo di questo settimanale così coraggioso, che ovviamente di cui non condivido il 100% le iniziative, sì. E però quando li ho visti minacciati reiteratamente per le vignette, sì. Su Maometto, avevo preso posizione anche al Parlamento europeo e li avevo, sì, contattati, avevo diffuso quel numero straordinario con le vignette. Sì, ho visto, con le vignette. E mi ero dato da fare. Ovviamente ho sentito bisogno di andare a testimoniare solidarietà a loro, ai familiari. Dire che ho trovato un clima spettrale. Sì, ma no. Hanno ammazzato 12 persone, ti credo. Cioè. Una Parigi riconoscibile, nel senso il clima di terrore che c'era, sì, che si leggeva nei volti delle persone. Vabbè, questo è normale, però, Mario, non è che devi fare. Io credo che sia la prima volta che la gente apre gli occhi e si rende conto che siamo in guerra. Ah, ecco, dunque, secondo questo te siamo in guerra ufficialmente? Siamo in guerra. Poi possiamo, adesso sentivo le dichiarazioni, i commenti sulle dichiarazioni di Bitonci, ma in fondo ha ragione, cioè noi dobbiamo a questo punto domandare ai signori islamici da che parte stanno. Cioè controllare uno per uno gli islamici italiani, dici tu. Certamente. Cioè, per esempio, gli imam vanno controllati uno per uno. Devono dimostrare loro che non sono amici del terrorismo. Ah, invertire l'onere della prova. Certo, qui è finita la bella storia del preteso islam moderato. Certo, ci sono degli islamici moderati. Moderati, come dicevi tu, moderati un cazzo, dicevi tu. E per bene, ma sono pochi. Nel grande fiume dell'immigrazione clandestina si sono inseriti i peggiori. Pensiamo soltanto ai guasti di Mare Nostrum. È entrato di tutto, non sappiamo chi sia entrato. Sì. E questi sono in mezzo alle nostre case. Cioè, dunque, che bisogna fare? Quando e dove vogliono, perché sono anonimi. Sono terroristi senza volto. Però scusami, Mario, adesso concretamente tu dici bisogna controllare uno per uno, ma chi? I capi? Controllarli tutti, i singoli. Beh, ovviamente si deve partire. Beh, sono da migliaia capi di musulmani. Scusa, in Italia, io ti chiedo, pensate che anche l'onorevole, c'è un tuo collega, Mario, in Italia e in Europa i guerrieri di Allah, quelli che sono andati in Siria a combattere con l'IS, e li faceva manca solo. Ma controlleresti diamo, anche l'onorevole Ciauchi? Scusa, fammi capire, controlleresti, questo è importante, controlleresti anche il mio amico onorevole Ciauchi, che è deputato al Parlamento del Partito Democratico, anche lui che è islamico, anche lui controlleresti con microspia a casa? Ma sia deputato, anche a me mi controllano quando io vado, entro al Parlamento europeo, anche mi controllano. Io dico che un bel pazzesco controllo a tappeto, sì, un bel controllino a tappeto anche all'onorevole Ciauchi, tutte le comunità islamiche è il minimo che si possa pretendere dopo fatti di questo per genere. Cui anche un deputato islamico, secondo te non è una contraddizione il fatto che ci sia un deputato islamico nel Parlamento italiano? Pazzesco. No, non è una contraddizione, nel senso che io credo a una verità, a un fatto fondamentale che cioè gli elettori hanno sempre ragione, cioè in democrazia. Ma va controllato pure lui? Elettore è sacra. Ma va controllato quindi anche lui? Però abbiate pazienza, abbiamo controllato, abbiamo dei parlamentari che sono in galera, quindi figuriamoci. Chi mi dice, io ho convissuto per 5 anni con un deputato basco e poi si è scoperto che insomma era legato al terrorismo. Chi mi dice che c'è un chilo? Io dico questo, che c'è stata una sottovalutazione vergognosa. No, ma c'è restiamo su. Aveva ragione la Fallaci che diceva Europa vile, siete tutti dei vigliacchi. Però scusami, Mario, tu dici, tu hai detto ho convissuto insieme a uno basco, un parlamentare basco che poi si è scoperto essere vicino ai terroristi. Cioè, sì, chi mi dice che questo Ciauchi non sia vicino a elementi estremisti, tu dici? Ma no? Appunto, io dico che dobbiamo presumere presumere la vicinanza. Ah, presumere quello. Per un principio di precauzione. E sta presumere loro dimostrare. Salvo prova contraria, quindi devono sta dare loro dimostrare il contrario. Ma è un devono italiano che non avere rapporti, devono far vedere che non hanno. Bisogna controllare le loro mail, le loro telefonate, pure la loro posta. Bisogna. Se a tappeto, a tappeto. Che, se voi mi dite che se lui dice che siamo in guerra, ma siamo impazziti, ragazzi miei. Ma io dico che in questa situazione, quando si è in guerra, sì, bisogna rinunciare anche a un poco di libertà. Ma libertà, ma l'onorevole Ciauchi è una persona straordinaria. Lui dice ma siamo italiano. Questo, non so neanche chi sia. Io dico, è un deputato della Repubblica di mamma, di cui non sappiamo niente. Che cosa predica? Non sappiamo. Quelli che tornano, controllarli dalle, uno per uno. Quelli che tornano sono andati a fare dei misfatti. Magari hanno ammazzato decine di cristiani o di altre religioni. Perché l'odio è verso tutti quelli che non sono musulmani. Questo è. Questo è. Pietale morta. Pietale morta, certo, dicevano i nostri alpini, è proprio il caso di ripeterlo. Solo che qui invece sento dei commenti mollicci. Pensate un po', la Mogherini dice che si riuniranno urgentemente il 19 gennaio, a parte che è San Mario, ma tolto questo mi sembra una decisione idiota. Cioè, discuteranno di questa cosa fra 10 giorni i ministri degli esteri dei paesi troppo tardi, ma siamo matti. Però sì, scusa, la Boldrini mi domando come mai domani non si riunisca d'urgenza la commissione esteri del Parlamento Europeo, come mai non ci muoviamo subito. Scusami, questo Mario, ma la Boldrini ci porta i terroristi in casa secondo te? Ma io non ho ancora letto, sono appena arrivato. No, ma in generale. Ma io dico che la Boldrini è l'esemplare, l'esemplare che rappresenta perfettamente tutto questo buonismo idiota, questo buonismo irresponsabile, questi falsi ipocriti dell'amicizia, del volemos e bene universale, sì, che fanno finta di non sapere, quando lo sanno benissimo, sì, che nell'ISAM e nell'ISAM in Italia e in particolare sì, in tutto il magma della clandestinità, i terroristi, gli estremisti, gli assassini, i macellai come quelli di Parigi, sguazzano come i pesci nell'acqua. Cioè i moderati non ci sono, i moderati non esistono, diciamo la verità. No, i moderati sono i moderati molto pochi, sono molto moderati, ma gli altri sono un numero impressionante, soprattutto sono sconosciuti. Perché abbiamo tagliato le ali e le gambe a coloro che volevano andare a fondo. Senti, ma bisogna fare. Fossimo in altri periodi, no? Nei tempi, quando c'era. No, caro ma Mario. Io dico che qui ci poteri dobbiamo straordinari. Rendere conto che siamo in guerra. Poteri straordinari. Siamo in guerra. Poteri eccezionali alle forze dell'ordine. Eccezionali. Restringimento delle libertà. Restringimento delle libertà. Dobbiamo mettere la museruola a questi. A questi imbecilli del volemos e bene del buonismo nazionale, sì, da qualunque carica di fondo. Ma tu non farai niente concretamente, che fai tu? Io da domani ovviamente cercherò di muovermi sia al Parlamento europeo sia politicamente anche in Italia. E io domani avevo organizzato una conferenza stampa a Roma sulla questione di Marò. La Chiang dice che la colpa non è delle religioni ma degli uomini. Ha perso l'occasione per star zitta e dire qualcosa di un bel silenzio sarebbe sempre meglio di una dichiarazione senza senso, senza significato. E le moschee in Italia perché che va fatto? È esattamente vero il contrario, nel senso che questa questione dimostra che purtroppo oggi c'è una religione che ovviamente è strumentalizzata, viene utilizzata largamente per diffondere il terrorismo, l'odio. Ma nel Corano c'è scritto: a morte gli infedeli, uccideteli ogni dove li troviate, cercate ma i nemici dell'Islam senza sosta. Nei testi, in alcuni testi sacri ci può essere di tutto, la cosa grave è che vengano utilizzati politicamente e chi ha denunciato queste cose, come la grande Oriana Fallaci, è stata ostracizzata. Ma mentre io stamattina arrivavo a Parigi in treno, leggevo i resoconti giornalistici sull'intervista televisiva di Houellebecq, un grande scrittore francese, forse il massimo scrittore francese romanziere, morto adesso dopo questa cosa, che si è permesso di pubblicare un omaggio profetico di quella della sottomissione della Francia a questo Islam prevaricatore. Lo hanno attaccato tutti alla televisione francese, facevano gara i giornalisti nello sputtanarlo, nello screditarlo. No, questo è vero, quindi vedi che però anche in Francia c'è un'opinione pubblica variegata, no? Aveva ragione Houellebecq, anzi Houellebecq è stato troppo leggero. Tutti noi siamo stati troppo leggeri, anche Borghetti è stato troppo leggero. Ma sei troppo leggero, domani ci devono sentire, è ora di finirla, devono andare fuori, dobbiamo liberarci, ha ragione Bitonci, fuori non solo da Padova, dappertutto, non li dobbiamo sentire, gli dobbiamo far sentire a loro la paura di comportarsi in questo modo, di tramare contro di noi. Loro devono avere paura, perché hanno attentato al bene più prezioso, la libertà. Oh, beh, finalmente la libertà sento Borghezio vero. E sento Borghezio vero. Io non potevo dire queste cose quando mi intervistavano davanti alla redazione di Charlie Hebdo per rispetto verso i morti. Ma adesso parlo liberamente, direi le stesse cose in aula domani se ci sarà la possibilità di parlare. Basta con l'invasione, deve tirare fuori Borghezio vero, basta con l'invasione. Ma basta con la minaccia, basta con la resa incondizionata all'Islam prevaricatore. È ora di finirla, l'Europa si deve svegliare, basta vigliacchi. Aveva ragione Oriana Fallaci, onore e gloria alla memoria di Oriana Fallaci. Ma perché Fallaci? Non ti metti la maglietta? Lei ha cercato di svegliare questa Europa vigliacca, strisciante, serpentina, schifosamente vile. Ma scusa un attimo, ma dal punto di vista militare, la prima cosa che faresti qual è dal punto di vista militare? Ma io credo che un rastrellamento di alcuni gruppi e di comunità notoriamente estremiste che sono conosciute. Ma noi abbiamo in Italia, ma anche in Francia, delle polizie che sanno che fanno bene il loro mestiere, antiterrorismo, eccetera, sanno dove però sono. Però bisogna iniziare con i rastrellamenti politiche. Sento la Merkel di fronte alle manifestazioni di Colonia contro l'Islam terroristico ed estremista con quella voce falsa, ipocrita, no, da vecchia democristiana di quelli negativi, perché c'erano dei democristiani che invece avevano le idee chiare anche sul terrorismo. No, attaccare e dire che questa è xenofobia, no. Quando questi fatti smascherano l'ipocrisia e la viltà di questi personaggi. Ed in realtà chiariscono le idee a molta gente. Andate chi alberga ancora queste opinioni, vada a parlare con le persone di Rue Nicolas Appert. Chi? No, le persone che non sapevano ancora che cosa era avvenuto, se magari la loro mamma o i loro congiunti erano stati scioccati, erano stati feriti e arrivavano tremebondi. Non riuscivano neanche più a capire quello davanti alla sede di Charlie Hebdo, dove abitava. I poliziotti chiedevano: ma lei dove abita? Ma Maometto, per te, che cos'è Maometto? Maometto, che cos'è? Maometto sicuramente è un personaggio importante della storia. Ho capito, ma è un simbolo di violenza? Sì. No, nessun esponente delle grandi religioni. Facevano bene questi qua a pigliarlo per il culo? Sì, si può pigliare per il culo chiunque. Il problema è questo, la satira è satira, Borghezio è la fotografia di chi viene preso continuamente per È chiaro che quando una satira pesante coinvolge la nostra religione abbiamo diritto a protestare, eccetera, ma sempre in termini misurati ed misurati, educati, moderati. Il problema è che quando facciamo satira noi ci permettiamo di dire quello che tutti pensano, per esempio sul tema dei Rom, cambiando un attimo l'argomento, veniamo immediatamente accusati e addirittura penalizzati. E A presto, viva la satira, viva la libertà. Charlie Hebdo, siamo con te. Noi siamo tutti Charlie Hebdo. Ciao. Au revoir. A un certo punto gli è partita la brocca a Marione, eh? Beh, sì. certo quando, punto beh, si è dai, sentito troppo ma moderato. Rastrella, ma rastrellamenti, ma come bisogna fare rastrellamenti nelle comunità islamiche italiane? È matto. E sull'onorevole Ciocchi che cosa ha detto? Ma io ma mi si accappona la pelle. Antonio da Milano, Maria Stella da Roma. Prima Antonio, vai. Sì, buonasera. Basta, basta, chiudi qua tutto. Sì, adesso, tre minuti. No, chiudi tutto, basta. Aspetta, ho sentito fin troppo. Dimmi, dimmi. Ma questa gente qui perché la facciamo anche parlare? Voglio dire, ma dice, se ne stiano al loro paese. Ma chi dici? Chi? Questo signore lì che prima diceva. Ah, Berri, questo Bedì da Salerno, sì. Un napoletano napoletano musulmano, sì. Signor Berri, signor Berri. Ma perché non se ne sta al suo paese, visto vabbè, che lui gli va bene qui, così? Ma sì, ma andasse a fare in culo direttamente. Ma certo, ma voglio dire, ma questi qui, ma cosa c'hanno nella testa? Voglio dire, noi abbiamo delle leggi in cui uno viene denunciato e basta, poi, ma non che vanno a fare queste cose qua in giro, ma devono smettere questi signori qui, perché loro pensano che abbiamo paura, ma di paura di che cosa? Solo che noi non siamo degli assassini, delle bestie, certo, perché queste sono delle bestie. Non c'è dubbio. No, no. Niente, volevo dire solo questo, grazie. Ciao Antonio, Maria Stella, Roma. Sì, buonasera. Dimmi. Sono di un'idea completamente contraria a tutto quello che avete fino adesso riportato. Io non ho riportato nulla, abbiamo ascoltato mille cose. No, vabbè, i tuoi vaffanculi, Giuseppe, non ne abbiamo, cioè, non ne possiamo più. Io posso dire quello che voglio, lo puoi dire tu, lo posso dire pure io. No, vabbè, ma non è così, cioè, con questo concetto della libertà di parola, di stampa, ci sono dei limiti. Allora, le leggi? Non è libertà, ci sono le leggi? Mi fai parlare? Ci sono le leggi? Mi fai parlare? No, non mi fai parlare. Allora, certo, c'è la libertà di stampa e la libertà di parola. Nel momento in cui io mi metto in discussione e offendo una religione altrui, lo devo mettere in conto che ci può essere questo. E noi che tu ci sei fuori di tanto testa. Evoluti, fammi finire. E noi che ci riteniamo tanto evoluti occidentali, come diceva David, dobbiamo mettere in conto queste cose. Non possiamo pensare di prendere per il culo i musulmani e uscirne così pulitini, adesso vittime addirittura. Io voglio avere il diritto di prendere per il culo i musulmani e di raffigurare Maometto come mi pare. Ti prendi il tuo e che cosa? Prezzo. Prendo le mitragliate? Certo, lo paghi. Ma vergognati. Ma vergognati tu che ti devi vergognare di quello che dici. Ti ritieni evoluto. Ma che c'è? Ma ti devi vergognare di quello che dici. Non sai fare 2 più 2 che fanno 4? Ma che c'entra 2 più 2 è 4? Ma no, ma qua stiamo parlando di due civiltà e due culture dove una vuole prevaricare l'altra. No, noi non vogliamo prevaricare su nulla, amica mia. Assolutamente, tu ti ritieni portatore della verità. Ma quando mai? Assolutamente no. E dell'evoluzione, cosa che non ma quando mai? Ma assolutamente no. Ma perché la bestemmia non è libera in Italia? Perché non posso bestemmiare? Ma non è vero, puoi bestemmiare, nessuno ti mette in galera. Vai su internet, vai sul web e troverai miliardi di bestemmiatori. Allora perché noi dobbiamo legittimare l'offesa di un'altra ma che c'entra? Religione, no. Di un Maometto, mettere in mutande Maometto, ma scusa, perché il musulmano non si deve sentire offeso? Ma tu che ti ritieni ma qualcuno voluto, si può anche rimettere in conto. Scusami, ma infatti, Maria Stella, la differenza è che qualcuno si può anche ritenere offeso e può andare in tribunale, tu stai dicendo io ad esempio ho detto parlando che i tribunali occidentali sono i più evoluti. Beh, vabbè, adesso sia una stupidaggine, però scusi cara, cosa io ad esempio ho detto che per me ma tu stai giustificando quelli che tirano mitragliate e quelli sto giustificando. Sì, hai detto quelli che si devono aspettare, no, le mitragliate. Se la sono cercata, questo dici tu. Io sto dicendo che la devi mettere in conto. Tu non puoi sparare. Appunto, se la sono fare cercata. Satira. Tu non puoi fare. Ma smettila, buffona, ipocrita. Buffone ci sarai, ipocrita ci sarai. Io mi sto mettendo in piazza, sto mettendo avanti le mie idee e la libertà vera. Questa è la libertà. Ma qual vera. È la libertà vera? La scusa, qual è la libertà? Reciproco. No, scusa, ho sbagliato. Buffone, ipocrita, non c'entra niente. Voglio solo. No, è vero, hai ragione. Non ti querelo, non ti preoccupare. No, ma non mi interessa, non anche se mi quereli. Infatti, non ti... Il punto è questo: non c'entra niente. Buffone, ipocrita, cioè buffone, ecco. Un po' sì, però quindi, va bene. Tu dici se la sono cercata, d'altra parte, non sei così. Non se la sono cercata, lo stai dicendo tu. Io ho detto, la devo hanno provocato. Hanno provocato l'Islam. Certo, tu vedi pagine e pagine di quotidiani, fai la satira, fai i fumetti. E allora? Avrai un tornaconto, lo devi mettere in conto se sei evoluto, se no sei peggio di quello che vai lo puoi mettere in conto, ma non per questo uno può giustificare la gente che va là a sventagliare col mitra e ad ammazzare 12 persone, perché alla fine arrivi alla giustificazione dicendo noi li abbiamo provocati, quelli reagiscono. Amica mia, uno può reagire in mille modi, insultandomi, ma cosa ti aspetti da un musulmano? Ma allora vedi che arrivi, allora arrivi. No, ma non è vero. Lo conosci o sei ignorante? Lo conosci cosa dici? Non è così. Vabbè. L'hai studiato, sei preparato. Comunque ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio. Ciao Maria Stella, ciao. Ciao, ciao, ciao. Mari Stella. Ciao, a domani, 18:30, sì. Ciao. Vi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri.